tanto siete finiti voi, finiti. Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano, morti che camminano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Matti, siamo tutti matti. Urliamoci, insultiamo da nevrosi. Siamo affetti, spariamo dei sorrisi. Degli alibi perfetti. Dati dai trascorsi assai sospetti, siamo tutti matti. Presidente, ma Grillo che dice che lei è solo un puttaniere? La paura per fragili ed inetti, bugiardi trasformisti, regalaci un computer se non vuoi vederci tristi, siamo tutti matti. Di non disperdere il loro voto sui piccoli partiti come quello di Monti, Casini, Fini o lo stesso Giannino. Giannino per esempio si presenta, è nei sondaggi all'1,4, per entrare in Parlamento e avere dei deputati bisogna raggiungere il 4%, i voti questo dati a Giannino, Giannino lo sa però, questo lo sa. Presidente Berlusconi, non ci tocchi Giannino, caro Parenzo, ci ha toccato Giannino dicendo che è inutile votare per lui. Fate pubblicità. Se il cuore ci dirà la verità, tenere in compresa quelle. Voto al vento, dice. Sì. Detto questo, per votare Giannino non è impedito e non è neanche obbligatorio. Quindi... Però uno sa che voto che Giannino sappia. È lo un sa. Voto al vento. Va. Che non conta nulla. Va. Poi oggi ha anche detto che va al supermercato. Della serie chi se ne frega, Sì, per comprarlo tutto al supermercato. No, no, per fare la spesa, dice. Sì. Maura da Parma, sì. Le chiede se mai in questo periodo è andato a fare la spesa in qualche supermercato e conosce i prezzi che ci sono al banco e nei vari settori dei supermercati. Sì, sì, sono andato, io ho due supermercati vicini ad Arcore, ogni tanto... faccio una capatina, mi tengo informato sui prezzi. Quindi al corrente va in mezzo alla gente e sa esattamente cosa si spende per fare la spesa. No, purtroppo, purtroppo così devo dare ragione al rapporto Eurispes che è uscito oggi, in cui la metà. Adesso io voglio che qualcuno chiami in diretta qui alla Zanzara qualche frequentatore dei supermercati di Arcore e mi dice sì, è vero, io ho visto Berlusconi che fa la spesa, si informa, sta con i pacchi così, va, dai, ma di che stiamo parlando? Dai, su. Va bene tutto, per carità, siamo in campagna elettorale, ma dire che Berlusconi in persona va ai supermercati, forse ci andava 35 anni fa, 40 anni fa, ma secondo me nemmeno, C'è andato per comprarle, ma come la stand, infatti. Oh, Brunetta scatenato, preparati Parenzo, Brunetta scatenato, fra poco vi faccio sentire un personaggio su cui non c'è per niente da ridere, per niente da ridere. Il cretino. Ce la spiega lei, l'abbiamo chiesto a tutti, nessuno ci ha saputo rispondere. Che cos'è? Come funziona questa equazione liberale del benessere? Allora, è pagare meno Santoro. No, va bene. Sì, questa diciamo, voi non quindi una risposta seria non la sapete Santoro. Dare sul pagare vostro programma Santoro, economico. Pagare non avete meno un'idea Santoro, chiara su pagare come meno Fazio, diciamo, pagare meno scusi, pagare meno Santoro, pagare meno Fazio a Sanremo, pagare meno la Littizzetto a Sanremo. Hai capito, Parenzo, com'è che fa? Pagare meno Santoro, pagare meno Fazio. Adesso tu mi devi spiegare, ma che fai? Stacchi il telefono e lo rimetti? Che fai? Non ho capito. Cioè, lo metti in viva voce e poi lo rimetti? Che fai con sto telefono? No, l'ho messo in carica. Ma... Adesso, adesso lo metti in carica. Mettilo dopo, alle 7, no? In carica. Ah, va bene, poi vai alla linea, non c'è la carica. Sì, sì. Senti contro il giornalista di Santoro, senti. Guardi, ci sono volumi che probabilmente lei non ha letto perché è impegnata a fare altro. Non solo io, non le ha letti nessun altro perché ancora ma nessuno le ha fatte questi interventi ma che mi sembrano così scontati. Ma non è vero, non è vero. Però, ripeto, basta pagare meno Fazio a Sanremo. Vabbè, la soluzione ovviamente ironica è quella di pagare meno, forse non era ironica, di pagare meno Fazio a Sanremo. Meno sì, peccato che Fazio viene parlato dalla pubblicità a Sanremo. Quindi, insomma, vabbè, ma non c'è bisogno di spiegare. Non c'è bisogno di spiegare, caro Parenzo. No, ti addentri in una spiegazione di cui, francamente, non si sente il bisogno. Grillo, Grillo, io voglio risentire la roba su puttaniera di Grillo, perché mi è piaciuta moltissimo. Monti che vuole abbassare le tasse, ma cazzo le ha aumentate lui, il redditometro nessuno, chi è che ha partorito il redditometro? Nessuno, Berlusconi ha detto io non c'ero, ero con delle fighe, io non... il puttaniere, non si può processare il puttaniere per eccesso di puttane, perché bisogna processarlo per i reati veri. Vabbè, c'è molto altro da dire, ma non c'è dubbio che le frasi che sentirete fra poco pronunciate da Carlo Giovanardi, insomma, sono al centro del dibattito politico. Uso un'espressione terribile che non bisognerebbe mai usare, soprattutto qui alla Zanzara, in particolare qui alla Zanzara, ma così è, insomma, grande bufera intorno alle frasi di Giovanardi. La prima è questa: Giovanardi se la piglia con Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, di cui sapete la vicenda, morto tempo fa, dicendo che sta sfruttando la morte del fratello politicamente. Cioè, non c'è nessunissima relazione tra la morte ed eventuali, perché nessuno l'ha dimostrato, percosse. O se su questo poi per l'ennesima volta in Italia si costruisce una carriera politica e la sorella diventa capolista di un partito, sono due anni che lo dico, era evidente che finiva così. Cioè, secondo lei Ilaria Cucchi sta sfruttando la morte del fratello? Sì, scusami, mi sembra talmente evidente. Spariamo dei sorrisi. Non vi faccio sentire tutto, ma Giovanardi ha detto anche che poi non è morto per le botte Stefano Cucchi, ma per e che ci sono dei poveri agenti di custodia massacrati che guadagnano 1200 euro al mese, massacrati da anni perché sono sotto processo, e poi è stato picchiato, è stato picchiato da altri spacciatori, Questa è la Zanzara, 800240024, e con noi Ilaria Cucchi, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Allora, innanzitutto vorrei capire una cosa. Lei ha intenzione, per queste frasi pronunciate da Giovanardi, che lei sicuramente ha già sentito, o no? Le ha sentite o ha letto sì, solamente... Sì, ovviamente sono al corrente delle ulteriori offese da parte di Giovanardi, che direi ha veramente superato la misura, ha veramente superato ogni limite. Senta, ha intenzione di andare in tribunale, di portare Giovanardi in tribunale o no? Guardi, io le dico questo, su di me io accetto si dica tutto, ma proprio tutto. Non tollero che si infanghi il nome e la memoria di mio fratello, e non lo tollero perché questo porta altro dolore ai miei genitori che già ne hanno sopportato tanto, sì. E dolore gratuito. Ovviamente Giovanardi, come le dicevo, ha superato il limite, io ho già dato incarico al mio avvocato di procedere contro di lui. Dunque lei ha intenzione di portare in tribunale Giovanardi perché si sente offesa, per non so quale reato sarà, diffamazione o quello che è? Certamente, Giovanardi fin dai primissimi momenti dopo la morte di mio fratello ha iniziato a parlare di lui come uno zombie o come una larva, e in quei momenti ha già iniziato ad indicare il percorso per quello che doveva essere il processo per la sua morte. Cioè sta influenzando il processo, secondo lei? Noi oggi siamo di fronte ad un processo per colpa medica, sebbene tutti, tutti sanno di cosa è morto mio fratello. Però scusi, Giovanardi oggi, è un processo politico? Certamente, il processo per la morte di mio fratello è diventato un processo politico. In che senso, scusi? Per volontà mia. Perché chi era al governo, in questo caso Giovanardi, chi rappresentava le istituzioni, già dai primi momenti ha iniziato ad indicare la strada per quello che doveva essere il processo per le responsabilità. Dico Giovanardi, come posso indicare per esempio anche la Russa. Cioè lei sta dicendo che ci sono dei politici che hanno fatto pressioni perché si arrivasse a incolpare la mala sanità. Il fatto di dire il giorno dopo, di indicare già la strada il giorno dopo, quando nessuno sapeva nulla di quello che era successo, secondo lei cosa può voler dire? Ma al di là di questo, io le ribadisco, sulla mia persona io accetto qualunque accusa. Ho strumentalizzato la morte di mio fratello, sì, l'ho strumentalizzata, perché prima della nostra vicenda io non sapevo cosa fossero i problemi delle carceri, non sapevo che di carcere si potesse morire. Dunque, da un certo punto di vista, scusi un attimo, signora Cucchi, mi pare molto chiaro. Lei da un certo punto di vista, aspetta. In nome di mio fratello. È così. Dunque, da un certo punto di vista, Giovanardi ha ragione quando dice che lei sfrutta, ovviamente lui lo dice in senso negativo, sfrutta la vicenda di suo fratello per andare in politica. Allora, diciamo questo, sicuramente io non voglio fare l'ipocrita, se non avessi vissuto la mia tragedia io non sarei nessuno, ma come non saprei quali sono i problemi veri sì. che si vivono dentro le nostre carceri, non saprei che di carcere si può morire. Sì. Io intendo usare la mia esperienza... Sì. per affrontare i problemi di cui i nostri ma questo qua l'ho capito perfettamente. Dunque paradossalmente Giovanardi, anche se lo dice in senso negativo, ha ragione, cioè io sfrutto mio fratello per parlare delle carceri, è così? Certamente, per io metto a disposizione me stessa, più che sfruttare mio fratello, me stessa, il mio dolore, la mia vicenda. Vabbè, ma anche suo fratello, portare, cioè. Per portare in Parlamento questi problemi, per esempio la tortura. In Italia non abbiamo un reato di tortura. Ma secondo lei suo fratello è stato torturato, suo fratello? Sicuramente se in Italia avessimo un reato di tortura, nel nostro processo non parleremmo di lesioni dolose. Scusi un attimo, Giovanardi dice anche che i tre agenti della polizia penitenziaria sono massacrati da anni, eccetera, eccetera. Ovviamente qui ci sono due tesi. Da una parte la vostra, che mi sembra quella secondo la quale sono stati evidentemente la causa della morte di suo fratello sono le percosse, e quella di Giovanardi, che suffragata anche dall'ultima perizia, però qui non entriamo nel dettaglio, non è la trasmissione giusta, per cui in realtà suo fratello è morto per malnutrizione, per alcune mancanze dell'ospedale, eccetera, eccetera. Dunque lei ci può dire, ci può confermare qui che la vostra tesi è quella che suo fratello è morto per le percosse degli agenti di polizia penitenziaria? Mio fratello è morto in seguito alle percosse subite. Quando Giovanardi da chi? Dice che subite da chi? Arrivando, quando Giovanardi dice che io dovrei chiedere scusa ai tre agenti di polizia penitenziaria, Giovanardi sbaglia persona. Chiedesse al pubblico ministero che li ha imputati nel nostro processo di chiedere scusa se Giovanardi è convinto di aver sbagliato. Io ho questi imputati nel mio processo. Sì, d'accordo, ma per lei sono colpevoli questi imputati? I tre agenti sono colpevoli di aver portato alla morte suo fratello? Di aver causato la morte? Chi ha massacrato mio fratello è colpevole della sua morte, certamente. Poi è ovvio che se l'avessero curato non sarebbe morto, ma sicuramente il meccanismo si è innestato in seguito a quel passaggio. Sicuramente mio fratello non sarebbe morto di suo. Allora, abbiamo il traffico. Ripeto che le parole pronunciate da Giovanardi, se non l'ho detto prima, lo ripeto adesso. Giovanardi era ospite questa mattina di 24 Mattino da Alessandro Milan. Parenzo, ci sei o sei morto? Io voglio capire, no, anche ci sono. Se volevo provare usare la parola morto non è bellissimo adesso. Volevo provare ci permetta Ilaria Cucchi una piccola risata su queste volevo cose. Volevo salutare la signora Cucchi e dire che invece ha perfettamente ragione, cioè è il bello che lei va in Parlamento in nome di suo fratello per una battaglia di civiltà. Ecco, ma secondo lei Giovanardi è una persona indegna di stare sì, ma l'abbiamo capito. Adesso non fare questa considerazione. Secondo lei signora Cucchi, Giovanardi è indegno di stare in Parlamento? Giovanardi è sicuramente indegno di rappresentare gli italiani. E dunque indegno di stare in Parlamento? Assolutamente sì. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho. Fra poco riprendiamo la linea con Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, candidata per Rivoluzione. Oddio, ma mi fai parlare o no? Candidata per Rivoluzione. Poi mi dici dove sono. Ma ho capito, ma se io sto parlando e mi vieni addosso non posso parlare, no? Candidata di Rivoluzione Civile, capolista dopo Ingroia in Lazio 1, è caduta la linea, dunque non puoi fare domande alla signora Cucchi, questo è il punto della vicenda, e adesso mi puoi dire quello che devi dire. No, che è vergognoso l'uso politico che ha fatto e che fa Giovanardi sulla vicenda Cucchi, strumentalizzando un caso di cronaca. Ma questo è scontato, fa un uso politico di questa vicenda qua, d'accordo. No, poi... no, ha messo il cappello su un caso di cronaca giudiziaria, su un caso su quella. Ma questo non è mica la prima volta. Ed è infatti una vergogna l'uso politico che fa di questo caso giudiziario. È la vergogna vera è questa cosa qui, oltre alla mancanza di rispetto e di sensibilità. Ma non è una cosa particolarmente originale l'uso politico di una vicenda giudiziaria. Sì, certo, parla ormai da tempo. Come accusano la cosa originale invece è esattamente questa, perché come invece accusano il centro-sinistra di strumentalizzare i processi contro Berlusconi e dicono che sono processi politici, in questo caso è ancora peggio, perché mentre lì ci sono dei reati che vengono imputati all'ex presidente del Consiglio. Vabbè, d'accordo, hai fatto queste due considerazioni. Avanti. avanti. Quindi, lo sfruttamento politico della vicenda. Sui fatti di cronaca giudiziaria, sui fatti di cronaca giudiziaria, ne hanno fatto un uso politico gravissimo, ignorando che una persona è morta dentro un pezzo dello Stato, cioè dentro un carcere. Va bene, hai fatto il tuo pippone. Carmelo dalla provincia di Monza. È un fatto che è morto. Sì, Carmelo dalla provincia di Monza. Adesso riprendiamo la linea con l'Ira dei Cucchi. È un fatto, sì. Personalmente io ho beccato. Niente di più scontato. Carmelo, allora? L'ho beccato per lo scuola al supermercato. Cioè, lei l'ha visto al supermercato, non ho capito? Sì, sì, sì, un annetto fa. Ma dove? Un anno fa al supermercato vicino Arcole? Sì, a Villa Santo. Ma non l'ha fatta la foto? No, non è che mi interessava più di tanto, sinceramente. Comunque, ha visto Berlusconi al supermercato, ma con le buste l'ha visto? No, era a fare la sua solita parata. Ah, ho capito, è andato lì al supermercato a fare così, un po' di sceneggiata, sì, un po' di tarare. 200 metri da Villa San Martino, è distantissimo, quindi è proprio attaccato. Insomma, che faceva? Faceva la spesa o no? Non ho capito. No, si faceva vedere più che altro, tutto lì. Eh? Che c'era, si faceva vedere che c'era, era in giro, faceva le sue battutine e via. Vabbè, è vero, sì, però non per vedere i prezzi, per fare la spesa, come dice lui. Non penso che vada lì a comprare un pezzo di mortadella per mangiarsi la sera col panino. No, non credo nemmeno io. Giovanardi intanto insiste, candidatura di Cucchi strumentale per sostenere la tesi falsa sulla morte del fratello. Cioè, libertà di parola, ribadisco che a mio parere Ilaria Cucchi è stata candidata per dimostrare una tesi falsa, cioè che Stefano è stato ammazzato di botte e che prima stava benissimo. Allora, bisogna dire una cosa, però. Bisogna dire una tesi falsa. Sì, però, ma scusa, ma tu hai già deciso. Hai già deciso. Esatto, e lì Giovanardi sbaglia quando. Sì, però, Giovanardi, scusami un attimo. Adesso, la non è che. La famiglia non ha mai sostenuto nessuna tesi. Ma l'hai sentita adesso la signora Cucchi o no? Dice di essere certa che è morta per le percosse date dalla polizia penitenziaria. Lei ha detto un'altra cosa. No, lei ha detto questo che sto dicendo. Il pubblico ministero che ha istituito proprio non capisce un cazzo. Il pubblico ministero che ha istituito il processo. Vabbè. È stato lui a mettere sotto processo e ad indagare gli uomini della polizia penitenziaria. Un attimo solo. Stai zitto un attimo. Allora, Ilaria Cucchi è di nuovo con noi. Allora, Giovanardi insiste, la candidatura di Ilaria Cucchi è strumentale, c'è cioè libertà di pensiero, libertà di parola, eccetera, eccetera. Io stavo dicendo prima che mentre Giovanardi in realtà sostiene la tesi della malnutrizione, diciamo, di suo fratello, lei sostiene la tesi, diciamo, che è morto per le percosse, però non c'è una sentenza da questo punto di vista, dunque potete essere paradossalmente sullo stesso piano, signora Cucchi. Io sono sul piano della verità. Però non della c'è verità dell'evidenza. Non c'è una verità giudiziaria, però c'è la verità dei fatti e dell'evidenza. Io credo che sia chiaro a tutti gli italiani di che cosa è morto mio fratello, poi vedremo quello che succederà nell'aula di tribunale, ma non sempre nell'aula di tribunale purtroppo arriva la verità. Anche questa sarà la mia battaglia. D'accordo, cioè in fin dei conti a lei quello che esce fuori dal tribunale non importa nulla, non importa poco di quello che esce fuori dal tribunale. Io vorrei tanto avere una giustizia in aula di tribunale, è quello, d'accordo, per la morte di mio fratello, però mi rendo conto che purtroppo non sempre è così. Me ne rendo conto da quello che sto imparando a vedere entrando nelle varie aule di tribunale. Ecco, l'impressione che però tutti sanno che mio fratello è morto per quelle percosse, è stato arrestato e poi massacrato e poi lasciato morire non curato dai medici. Però mi pare di capire, scusi signora Cucchi, che lei non abbia troppa fiducia in questa giustizia, in questo processo. Lei dice che è un processo pilotato politicamente, quello ci ha detto all'inizio, e la nostra è una giustizia che sicuramente come dire, una legge che non è uguale per tutti. Non lo sentiamo più nemmeno dire che la legge è uguale per tutti, e le assicuro che questo è quello che si verifica. Cioè lei però non ha fiducia pur essendo in lista con un magistrato che in Italia impersonifica per certi ambienti il massimo della giustizia, lei non ha fiducia in un tribunale italiano che sta giudicando suo fratello, così? Allora, pesiamo bene le parole. Io so che noi abbiamo tanti magistrati validi e capaci, tanti. Purtroppo a volte succede, e per fortuna raramente, che un pubblico ministero sia ostile. Le vittime del reato in alcuni casi diventano persone che si devono difendere in quell'aula di tribunale. Il processo per la morte di mio fratello è stato per la maggior parte del tempo un processo al morto, un processo a mio fratello, alla sua vita, addirittura alla nostra famiglia. Ma questo PM è ostile a voi? Questo PM è ostile a voi, dunque? È ostile alla sua famiglia, ostile alla vittima, ostile al morto? Porta avanti il suo principio non curante di quella che è l'evidenza dei fatti. Ma credo che queste sono cose che... Però scusi, l'evidenza dei fatti, no, ma certo... Però, no, non credere però in quel processo, però. Lei non crede nel processo... Nel processo? Nel vostro... Certo che non ci credo, ah, è un processo ipocrita, è un processo ipocrita. Però scusi, si parla di una colpa medica e di lesioni dolose. Sì, sì, d'accordo, però... credo che... No, ma è chiaro. Senta, le posso fare? No, non c'è più tempo, va bene. La ringrazio molto. A lei, arrivederci. Grazie, buona serata. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist. Monti, Mario Monti, il Partito Democratico è nato nel 1921, dice Monti, è diventato come Berlusconi quando parla del comunismo, incredibile. Monti oggi ha detto, poi si è corretto, ha detto mi hanno frainteso, la stessa commedia di Berlusconi, caro Parenzo. No, identica. No, non ce ne può più. È la stessa cosa, ma ti rendi conto che significato ha dire, a parte che non è vero che il Partito Democratico è nato nel 1921, non ha nessun senso, cioè... No, forse parlava, perché veramente non sai niente, forse parlava di il congresso di Livorno, ma non no, dice nulla. Ma che dici? Ma che dici? No, ma che... Non ma sai secondo... niente. No, ma che dici? Parlava del congresso di Livorno. Manda, ma che dici? Manda il TG3 che è meglio. Ma dai veramente... su, ma dai su. Ma certo siamo, che parlava del congresso di Livorno, ma è una polemica, come... ma è una polemica ridicola, no? Perché è evidente che... L'ho spiegato a queste capre che ogni tanto, non tutti quelli che ascoltano, sì. C'è una componente molto intelligente della zanzara intellettuale. Che sì, ci ascoltano anche sì. per studiarci un po' come fossimo sì. animali da zoo, no? Sì. Gli intellettuali ci e poi ci sono quelli che c'è quell'imbecille che ogni tanto chiama, quello del becco e del camion, come si chiama? Quello che parla tutto così a te apparenza. No, quello è il numero uno, quello è il numero uno. C'è quella gente. Aspetta un attimo, aspetta e un attimo. Spieghiamo che nel 1921 a Livorno è successo sì. qualcosa a questi quattro ignoranti. Sì, ma non è quello il punto è Monti che dice che il PD è nato nel 21. Questa è la sostanza. Follia, ma io quello volevo dire, non mi stavo addentrando sul 1921. Ma io l'ho senti, ricordato che ci ascolta perché la battuta di comicità di oggi, la migliore battuta di oggi la pronuncia un esponente della comunità di Sant'Egidio. Sai che la comunità di Sant'Egidio, non l'intera comunità, ma insomma i vertici si sono schierati con il signor Monti. Col signor Monti. Uno di questi è un candidato Marazziti, perché il ministro Riccardi non si è voluto candidare. Il signor Marazziti, alto dirigente della comunità di Sant'Egidio, dice che sì. siamo la lista più povera d'Italia, ma dal punto di vista dei soldi. Signor Marazziti, ma voi avete il signor Montezemolo, è la lista Kamchatka, come ha detto Crozza. Avete i doppi cognomi e voi dite che è la lista più povera d'Italia. Divento pazzo, Marazziti. In questo momento Roma, provincia, Lazio 1 per la Camera, il conto a meno 2 euro perché ci stanno il libretto degli assegni da pagare e non è arrivato nessun fondo, nessun contributo. Quindi in questo momento direi che forse in questo momento siamo anche la lista più povera d'Italia e quindi comunque io di banchieri non ce n'è nessuno in lista, c'è un sacco di brava gente e io non so di che si parli. Io non voglio dire che la lista dei banchieri, la lista dei ricchi, ma insomma dire che la lista civica Monti, scelta civica, è la lista più povera d'Italia fa ridere i polli, no? Cioè, è ma evidente che fa ridere i polli. Cioè, mi pare evidente. Posso presentare e farti salutare no, per no, qualche no, secondo no, un no, ospite no, che ho al mio fianco? Non mi interessa, no. Ci sono i titoli del TG3, non mi interessa. Dopo i titoli vuoi sentirlo? Può darsi, dipende chi è, non mi fare le tue solite sceneggiate buffonate, le tue solite tarantelle che mi presenti Salim, qualche immigrato sì. extracomunitario di cui me ne sì. fotto, di cui in questo momento me ne fotto, perché voglio fare mi la vai, trasmissione, sì. non voglio intromissioni da parte di tuoi presunti no. personaggi che sarebbero, come dire, storie di vita appunto, che sarebbero personaggi che l'Italia... ha portato sull'astrico l'Italia migliore, quella sì. che noi veltroniani chiamiamo l'Italia migliore. Ah, cagare. Ecco, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Al processo Mediaset i difensori di Berlusconi chiedono il rinvio, no della corte, loro lasciano l'aula, siamo pronti a rimettere il mandato. Berlusconi contro i giudici, vogliono impedirmi la campagna elettorale, attacca Berlino, se non cambia salta l'Eurozona. Monti, il PD è nato nel 21. Bersani e Renzi insieme sul palco di Firenze. Il sindaco attacca Monti e Berlusconi, il segretario sulla Germania battuta da due soldi. Napolitano critica la stampa sul caso MPS, valido il brusco richiamo della procura sulla pubblicazione di notizie infondate, l'inchiesta va avanti. La disoccupazione continua a salire, nuovo record a dicembre, quasi 3 milioni cercano un lavoro, a spasso più di 600.000 giovani. Bufera su Giovanardi che accusa Ilaria Cucchi, candidata alle elezioni, di sfruttare la tragedia del giovane, la replica è lui che specula. L'avvocato di Maradona annuncia che l'ex calciatore ha vinto la sua battaglia contro il fisco italiano, ma l'Agenzia delle Entrate smentisce tutto. Non mi moleste moschito. Allora io ripropongo la questione di prima, chi ha ragione, chi ha più fiducia nella giustizia, Ilaria Cucchi o Carlo Giovanardi? Guardate che non è una questione, come dire, peregrina, non è una domanda assurda. Sapete quello che ha detto Giovanardi questa mattina ad Alessandro Milan? Ha detto che sfrutta politicamente il fratello, che il fratello, come dimostrato da una perizia, non è stato ammazzato dagli agenti di polizia penitenziaria, bensì da eventi che sono accaduti all'interno dell'ospedale per malnutrizione, una cosa di mala sanità, che quei tre agenti sono massacrati loro da anni, da mesi, e guadagnano 1.200 euro al mese, eccetera, eccetera. Ilaria Cucchi, qui alla Zanzara, questa sera ha detto: Giovanardi è indegno di stare in Parlamento, quello su mio fratello è diventato un processo politico, un processo contro il morto, non ho nessuna fiducia nel PM che ci è ostile. E poi ha detto: paradossalmente è vero, sfrutto mio fratello per andare in Parlamento, per fare delle battaglie sulla situazione del carcere, però ha detto anche: non credo nel processo, qualsiasi cosa esce da questo processo non ci credo. Questa è: chi crede più nella giustizia, Giovanardi o Ilaria Cucchi? Qui non esistono sepolcri imbiancati, non esistono giusti e delinquenti, esiste quello che dicono le persone. Giovanardi ha detto delle cose, Ilaria Cucchi ne ha dette altre. Chi crede più nella giustizia, Giovanardi o Ilaria Cucchi? Oh, intanto Tremonti ha un sogno, Tremonti ha un sogno, che è quello che Monti non prenda nemmeno il 10%, cioè che rimanga fuori dal Parlamento. Gli italiani possono regalarsi un sogno, non devono astenersi, possono votare per chiunque, per lui, per Grillo, votare per chiunque, ma il sogno è: se Monti, Fini e Casini non fanno il 10%, non entrano in Parlamento. Siccome è il partito tedesco, cerchiamo di essere italiani e lasciamoli a casa. Ingroia che parla come Berlusconi, sentite: la Consulta è sui generis, giudici di nomina politica, poi attacchi offensivi, la Boccassini a gamba tesa in campagna elettorale, uso politico di intercettazioni, dice ancora Ingroia, questo l'ha detto oggi Ingroia, sentite. Ma lei non ritiene che si sia fatto anche un uso politico delle intercettazioni, dico politico tra virgolette, sì, ma comunque sì. Sì, questo è vero, ma il punto però è, come sempre, individuare causa-effetto. Questo è stato un effetto negativo. La causa probabilmente è che non si è mai fatta pulizia dentro il mondo della politica. Se fosse fatta pulizia non ci sarebbero state quelle inchieste così clamorose, non ci sarebbero state le intercettazioni utilizzate per uso politico. Ma vogliamo ricordare il Crosetto di ieri sera che dice che Bondi è il più servile di tutti? Lo vogliamo ricordare stupendo, o no? Paragonandolo stupendo a Fantozzi. Disponibile. La persona, diciamo, più servile, Sandro Bondi. Dietro Bondi non può andare nessuno. Bondi è proprio super. È oltre, sì. Uber Bondi. Stava presente la scena: come buono lei. Sai che era mi ricordo. Com'è così, che fa? Come buono lei. Oh, grazie. Com'è che faceva? Oh, grazie. Siamo qui, 800 24 00 24, c'è molta carne al fuoco ancora. Parenzo, dove sei? Con chi sei? Soprattutto non mi fare brutte sorprese, se no ti prendo a calci nel sedere, eh. Chi c'è? Guarda, tra qualche secondo Vabbè. Ti posso raccontare la storia. Innanzitutto stai fermo, immobile, non stare in giro per strada, se no ti prendo a bastonate questa sera. Giovanni, no, non me ne frega niente, però. Giovanni da Ferrara, ti prendo a bastonate, ti giuro, a bastonate. Giovanni da Ferrara. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa. Ecco, io, a proposito di bastonate, mi metto insieme alla signora Almirante e ti diamo due bastonate in testa. Giovanni, dica. Pronto, buonasera, complimenti per la trasmissione a entrambi. Niente, durante la trasmissione di Santoro con Berlusconi c'era un... c'era ancora, ancora Santoro no, e Berlusconi? No, aspetta, Berlusconi per quello da che... Santoro e Berlusconi, come diceva... No, che c'era un'imprenditrice che parlava dei problemi... Sì, me la ricordo, Parlava di signoraggio bancario... Di va bene, allora... L'unico argomento che sarebbe potuto approfondire in quella trasmissione, visto anche i problemi che ci sono. Vabbè, ma chi se ne frega, non l'hanno approfondito. L'ho approfondito in altre trasmissioni, si approfondisce anche il signoraggio bancario. Ma perché dovremmo interessarci di una cosa accaduta 2 settimane fa, 3 settimane fa, di una signora ospite del programma di Santoro? Lei parlava di signoraggio bancario e va bene, parlava, tra l'altro ne hanno parlato pure ieri sera di signoraggio bancario, una trasmissione di Santoro. Sì, ma ne approfondiscono sempre poco. Ma vada a leggere su internet, perché si aspetta qualcosa della televisione? Vada su internet e si informi. Perché lei si aspetta che ne parlino in televisione? Vada perché su internet e si informi. Ma non è vero, c'è anche internet e web, vada a informarsi pure là. Va bene, saluto, arrivederci. Vittorio dalla provincia di Bergamo. Sì, salve. Dica. Pronto? Dica. Ah, buonasera, ascolti, volevo intervenire un attimo con la signora Cucchi. Sì. Cioè, quella gentile signora deve ringraziare il cielo di abitare in Italia. Perché? Innanzitutto i suoi genitori e lei come sorella, che educazione ha dato al fratello un drogato marcio. A parte questo... Non ho capito, scusi, Vittorio, non ho capito, scusi. Dica. Non ho capito, lo Cucchi deve ringraziare di essere in Italia, perché? Sì, perché deve ringraziare il sistema che c'è qua in Italia, perché se solo esce dall'Italia, a parte la Francia che non la conosco, ma se ne va in Austria, Svizzera, Germania, eccetera, quando le forze dell'ordine fermano qualcuno, questi qua entrano dentro molto timorosi. E le assicuro che il signor Cucchi, quando è entrato dentro, non è che è entrato dentro salutando, buonasera, come state, ma lei eccetera, che ne eccetera. Sa? Ma lei che ma ne si sa? Capisce? Ma lei che ne sa? Ma lei che ne sa com'è entrato? Signore, com'è entrato? Lei che ne sa com'è entrato in carcere? Che ne sa lei? Lei ha mai provato a chiedere a una forza dell'ordine quanto prendono, paragonandola a quello che prendono all'estero? Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma lei è un poveraccio. Ma lei è un poveraccio. Cioè, lei è un poveraccio. Lei, Vittorio, lei è un poveraccio. Ah sì? Sì, lei è un poveraccio. Ecco, allora lei ringrazi questo sistema di sfacelo generale che c'è. Se lei parla in così senza sapere nulla e dice, parlando dello stipendio dei poliziotti, che non c'entra niente con questa vicenda, nulla con questa vicenda, lei no, è un poveraccio. No, non c'entra, guardi che lei si sbaglia. Lei provi a andare. Scusi, io non lo so io non lo so quello che è successo, perché aspetto una sentenza. Ma secondo lei, siccome uno prende pochi soldi, è quasi obbligato a picchiare una persona? Non sto dicendo che è autorizzato. Le assicuro che questi qua si sono solo difesi, probabilmente perché questo qui era un esaltato mentale. Ma probabilmente cosa? Ma lei non c'è nemmeno bisogno dell'ambulanza per lei, perché lei è un caso, cioè è un caso ormai definitivamente andato, cioè è una causa persa, sì, capito? Ma c'è una cosa, lei provi ad andare all'estero, ma e vedere l'estero... come fa qua in Italia molti nei confronti delle forze dell'ordine, poi quando torna me lo dirà, tanto c'è il mio cellulare. Va bene, Vittorio, no, io non, per fortuna non ho il suo cellulare. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Eccoci qui, 800 24 00 24. Fabio da Pavia, buonasera Fabio. Buonasera a Cruciani, buonasera. Vada, stasera sono molto caldo, mi faccia calmare. Volevo intervenire sulla questione della signora Cucchi, che usa una cosa triste. No, veramente l'ha usata Giovanardi, la cosa triste, volendo. L'ha usata lei candidandosi. Vede, l'ha usata lei candidandosi, non l'ha usata Giovanardi. Ha ragione Giovanardi, anche se a me mi sta un po' sulle palle. Però ha ragione. È come la mamma di Giordano, si ricorda Giordano? Quel ragazzo di Genova che purtroppo è stato ammazzato. No, che Giordano, non si chiama Giordano, Giuliani. Sì, Aidi Giuliani. Bravo. E si è candidato. Sì, ho capito. Anche secondo me Parlamento, anche secondo me si deve. Merito che se il figlio è morto, poveretto, per quel merito siede in Parlamento. Guardi, è lo stesso argomento utilizzato oggi dallo stesso Giovanardi. Anche a me non piace l'abitudine, l'usanza di candidare in Parlamento, direi piuttosto trasversale, ma a sinistra... Non è tanto trasversale, eh? Beh, no, infatti, la maggior parte di questi casi sono a sinistra. Adesso non ricordo un caso a destra, però lo troviamo, ma come se vogliamo. No? Ma come no? Di parenti, di morti, di vittime, eccetera, cose di questo tipo. Ma come no? Dimmene uno. No, ma scusami, non c'era la Santa anche che voleva candidare una vittima di Battisti, su cui sì, tu tra l'altro hai scritto anche un libro? Sì, quello è vero. Primo. Infatti, ho detto che non me ricordavo, sì. Poi? Secondo. Poi? Non volevano candidare i famosi Marò. Qualcuno quelle non sono vittime di nulla, quelle sono le vittime stesse. Parenzo, lei mi sta un po' sulle balle perché lei è un po' quello che vuole fare il filosofo, l'intellettuale di sinistra. Ma questo non c'entra niente adesso, Fabio, non c'entra nulla. Questo non c'entra niente, caro Fabio. Il problema fondamentale è uno, anche a meno. Vabbè, ma lasci che c'entrano gli occhietti piccolini in naso adunco, che fa che l'ombroso, che cos'è? Fallo parlare. Scusi, Fabio. Che c'entra il naso adunco, che fa le generalizzazioni sugli ebrei? No, però mi sembra tanto, come si chiamava, la Pipino Lebanista, si ricorda quel film Marchese del Grillo, no? Quando lei lo vede alla televisione con la bocca semiaperta che aspetta che dall'altra parte gli diano l'imbeccata per dire quello che vogliono sentirsi dire. Lei è ricoverato da molto in lungodegenza lei fa sempre queste battutine qua. No, non è una battuta, così, purtroppo. Così. Va bene Fabio. Francesco dalla provincia di Salerno, buonasera Francesco. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, io volevo intervenire sul caso Cucchi. Sì. Niente, praticamente a volte qua in Italia sembra di vivere in uno stato di polizia, mi spiego meglio. In che senso, scusi, non ho capito. Nel senso che il caso Cucchi purtroppo non è un caso isolato, c'è il caso di Giuseppe Uva, c'è il caso del ragazzo di Ferrara del quale purtroppo adesso non ricordo il nome. Vabbè, sono casi in cui la polizia ha commesso degli errori, dunque? Degli errori dovuti forse a frustrazione. Vabbè, ma questo che c'entra, scusi? C'entra nel senso che queste cose, questi avvenimenti purtroppo a volte non vengono trattati in maniera molto molto concreta. Vabbè, poi? Nel senso poi? Che si lascia correre. Per quanto riguarda poi il discorso della verità processuale, l'Italia è un paese pieno dove le verità processuali purtroppo non corrispondono alle verità reali. Sì, ho capito, reali. Qui non c'è nemmeno una sentenza e prima i nostri microfoni, no, alla Zanzara. La signora Ilaria Cucchi, che io rispetto, ha detto di non credere nel processo, ha detto che alcuni personaggi, ha nominato Giovanardi, La Russa, influenzano il processo politicamente sin dall'inizio, anche qui bisognerebbe dimostrare come, quando e perché, e poi ha detto sempre Ilaria Cucchi che il PM è ostile alla famiglia e che insomma non vogliono indagare verso una direzione, perché secondo lei sicuramente il fratello è morto per le percosse degli agenti di polizia penitenziaria, l'ha detto lei. Ora, chi crede nella giustizia di più? È una domanda che vi faccio. Giovanardi o Ilaria Cucchi? Zanzare, dietro le montagne, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare. Detto questo, anche Giovanardi ha dato per scontato che il fratello di Ilaria Cucchi è morto non per gli agenti di polizia, a processo ancora aperto, ma è morto per cause, ha parlato di una perizia, adesso non entriamo nei dettagli, anche lui è andato, comunque non sono paragonabili, è andato un sono po' veloce due... diciamo no è andato ma un no, po' veloce ma una è una vittima, cioè la signora Cucchi, la sorella che abbiamo sì, sentito, ma non c'entra vittima, niente, lei ha già una verità precostituita, la signora Cucchi, prima del processo, questo è certo, ce l'ho detto stasera, io ho grande rispetto, però io guardo le parole, non è che c'ho il santino di Ilaria Cucchi né il santino del fratello né penso che Giovanardi di una... sia di per sé un criminale, ha detto delle cose inopportune. Giovanardi, rispetto il fatto che la signora Cucchi ha vittima. Ma che vuol dire? Non è che se uno gli è morto il fratello può dire qualsiasi cosa, ma che vuol dire questo? No, ma non è che giustifico, io capisco semplicemente lo stato d'animo della signora. Non capisco invece un politico che già quando era... Però siccome uno si presenta, siccome Ilaria Cucchi si presenta, uno può fare delle considerazioni sulla candidatura di Ilaria Cucchi, oppure non è permesso, oppure non è consentito. Sarà consentito dire che uno si impegna in politica sfruttando l'immagine di qualcuno. Poi uno può contestare, ma è con noi Ignazio La Russa. Buonasera. Buonasera. Come sta? Ecco, ti possa. sto di corsa, tanto per cambiare. Beh, insomma, in questo periodo, quando è che lei non è di corsa? Mai. Questo è vero. Mai. Sai, senta, com'è? L'Italia chiamò, per cui dobbiamo correre. Fratelli, l'Italia, l'Italia chiamò. Vabbè. Ieri sera abbiamo avuto anche Crosetto. L'Italia chiamò, ma facciamo il bis. Ieri sera Crosetto, stasera la Russa. Beh, insomma, bene. Beh, fratelli, ce ne vogliono almeno due, plurale, giusto? Scusi un attimo, la Russa, ma tanto per riprendere questa questione di Ilaria Cucchi, che è di attualità di stasera, è stato nominato dalla stessa Ilaria Cucchi perché ha detto che lei e Giovanardi, insieme ad altri, avete... Vi ho sentito. Ma io non so, io ho incontrato Ilaria Cucchi a una trasmissione televisiva di Mediaset pochi giorni fa, quella condotta da... vabbè, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, uguale. Non è importanza, no, dal giornalista che era assessore a Milano, da Del Debbio. Ah sì, a Quinta Colonna, sì. E l'ho pure difesa, perché non facevano parlare tanto, ma non mi ha contestato niente, anche perché nell'intervallo ce l'ho anche detto, ma come, si ricorda l'unico intervento che ho fatto su Cucchi, era in difesa, allora avevano dato subito per scontato, senza nessun processo, senza nessun indizio, senza nessun elemento, che fosse stato picchiato dai carabinieri. Io avevo assunto certamente, ma più che informazioni, così, insomma, un minimo proprio, avevo, anche se vuole fidandomi, detto, escludo nella maniera più categorica che i carabinieri abbiano un ruolo in questo. Allora, il processo si deve ancora fare, ma di questo ormai si sa che la verità è che è pacifico, gliel'ho ricordato. Ma questo però, lei parla però degli agenti di polizia penitenziaria, poi... No, è di fatti, ma mentre in quel momento si accusavano i carabinieri, io sono convinto che anche gli agenti di polizia penitenziaria alla fine verranno completamente scagionati, io ne sono convinto. Ma lei sta sfruttando questa... Un dato era sicuro e che quello che era ancora più sicuro era che siccome non c'entravano proprio, cioè almeno questi l'hanno avuto in consegna, quelli non l'avevano mai avuto. Sì, no, me lo ricordo, la fase iniziale di quella vicenda. Allora, io dico che siccome hanno accusato con tanta leggerezza i carabinieri, è una presunzione un po' azzardata, ma insomma, prima di pensare che la polizia penitenziaria c'entri, partendo dal presupposto di come erano stati accusati i carabinieri, ho la presunzione di dire che è tutto da dimostrare, che ci sia un minimo di comportamento. Sì. Allora, la Cucchi invece dice che il PM è ostile, che non crede a questo processo. Ma la sorella è giustificata. Bisogna sempre avere rispetto per i familiari di persone decedute. Non la chiamo. Dunque ha sbagliato Giovanardi a dire che sfrutta il fratello per la candidatura? No, bisogna avere rispetto. Poi c'è un problema che non riguarda la Cucchi, che riguarda soprattutto la sinistra, perché non so se ve ne rendete conto, a destra non dico che non è mai capitato, ma molto meno questo mezzo, questa maniera di candidare i parenti di persone che hanno perso la vita. Sì. Ora, per carità, può essere anche un omaggio, ma quando si ripete costantemente, sempre, uno gli viene il sospetto che prescinda dalla qualità della persona e che sia invece solo in relazione alla parentela. E non è proprio uno dei criteri meritocratici quello di candidare una persona che magari ha sofferto, verso cui... Ma secondo lei la Cucchi ha qualche merito? Lei, Ilaria Cucchi? La sorella di Cucchi, credo, poverina, voglio dire. Non credo, ma me l'ha detto anche lei che con la politica c'entra. Cioè, se non fosse perché la sorella di Cucchi non sarebbe mai stata candidata, mai presa in considerazione. Non ho capito. Scusa. Se non fosse la sorella di Cucchi, di Stefano Cucchi, non sarebbe mai stata presa in considerazione, dice lei. Ma questo credo che lo sappiano tutti, no? Io comunque ricordo... Ma la politica è fatta di simboli, la Russa. Il Ministro Stampa, in tempo record, Emiliano, mi ha dato la mia agenzia di allora, che dice non c'è dubbio che qualunque reato abbia commesso questo ragazzo ha diritto ad un trattamento assolutamente adeguato alla dignità umana. Quindi... io in questi casi prescindo dal motivo per cui uno è in carcere, non c'entra proprio. No, ma questo va bene, ma questo però devo dire anche che chi sopporta il carcere senza avere commesso nessun reato sono gli agenti di polizia penitenziaria. Si parla sempre delle condizioni di vita, vabbè, quello è un altro discorso. No, me lo lasci dire, visto che state parlando di loro. E io invece vorrei spezzare una lancia a favore della polizia penitenziaria, che sta in carcere in condizioni spesso disumane, tanto quanti detenuti. Bisogna fare qualcosa per la polizia penitenziaria. Beh, certo, che bisogna fare molto, molto per, perché le carceri siano più vivibili, sì, per i detenuti. Ma eravate al governo tanti, sì, anni. Io l'ho proposto, ho proposto di usare le caserme, per esempio, quelle vuote, come carcere. Ho proposto tutte le volte che altri, anche nel mio partito, proposto, però, parlavano di amnistia. Io ho sempre detto l'amnistia non deve essere un alibi, perché le carceri sono messe male. Niente amnistia, ma carceri a dimensioni umane. Io vorrei capire, secondo lei, chi ha più fiducia nella giustizia? Di prestare i soldi alle banche, facciamo carceri giusti. Viste le dichiarazioni di oggi, che lei avrà sicuramente visto, chi ha più fiducia nella giustizia, Ilaria Cucchi o Giovanardi? So che, però per me è una questione fondamentale. Secondo lei, più fiducia nella giustizia sicuramente Giovanardi, perché la Cucchi ha detto che non si fida del PM, quindi voglio dire, sicuramente più Giovanardi, ma per ammissione della Cucchi. Ma a me poi, voglio dire, parliamo di problemi che interessano la gente. Per esempio, Balotelli. Per esempio, Balotelli interessa moltissimo. Sì, Balotelli ha ragione, non è un problema fondamentale, ma la gente si appassiona. Si appassiona moltissimo. Lei è più contento? Io lo conosco abbastanza bene, non voglio dire che siamo proprio amici, ma siamo andati anche a cena insieme, voglio dire, conosco bene. Sono un po' invidioso che sia finito al Milan, ma all'Inter non poteva proprio tornare. No, quello sicuro. Dunque lei rosica un po'. Che butta la maglia a terra, tutto può fare tranne che giocare più nell'Inter. Non c'è dubbio. Lei rosica un po' oppure è contento perché dicono che... Rosico un po'. Rosico un po' perché è un grande campione. Non vorrei che tornasse all'Inter, ma insomma, vabbè, però se in un'altra squadra italiana doveva andare, meglio il Milan che qualunque altra squadra, perché almeno è contento lui e la sua squadra. Senta, poi vedremo. Senta, innanzitutto ha appena detto, che se dovesse segnare al derby esulterebbe, l'ha detto adesso nella conferenza stampa. Ma va bene, io trovo veramente banale questa cosa dei giocatori che fanno finta di essere attaccati. Sì, questo è giusto, questo è giusto. Esultino tranquillamente, non è quello che fa arrabbiare i tifosi, esultino. Se uno fa un gol, io quando gioco contro mio fratello a pallone, anche da ragazzino, da meno giovane, se gioco contro mio fratello e faccio un gol, esulto. Ma, porta voti secondo lei a Berlusconi? Ma guarda, Berlusconi non mi pare che i giocatori li ha comprati solo in tempo di elezioni. Poi se gli porta voti o non gli porta voti non lo so, può anche darsi che gli porti voti, però io non... C'è pure il derby il 24. Sono i fratelli d'Italia, non ho bisogno di difendere Berlusconi, ma dire che compra i giocatori solo per difendere, per prendere voti. Da pure venduti quando si sapeva già che si andava a votare. Però allora, scusi, la Russa, però c'è un paradosso, In realtà, se mi dica una cosa innanzitutto, non succede, ma se dovesse succedere che questo centrodestra un po' bizzarro, dove dove si sta dentro così per sperare in, in un miracolo, se dovesse accadere che vincete, lei che fa? Che fioretto fa? Me lo dica questa sera, una cosa che è proprio è impensabile, sembra impensabile, anche se c'è una piccola limita. Che è impensabile. Fratelli d'Italia è nato per costruire un centrodestra che possa... No, d'accordo, ma se vincete le elezioni è grazie alla rimonta che sta facendo Berlusconi, diciamo la verità. Non lo so se grazie a che cosa, grazie... E lei lo sa che all'interno della coalizione ogni voto è uguale all'altro, no? Cioè questa favola, questa specie di cosa grigia che anche voi alimentate con frasi come queste. Cioè oggi vincono le coalizioni. Che alimentiamo? A Fratello d'Italia. Ma lo so, vabbè, certo, perché... Fammi dire per gli altri, lo so che lo sai, fammelo spiegare. E che ogni voto dato a Fratelli d'Italia... Ma qui non è che devi venire a fare comizio. Parlare esattamente uguale come utilità. Ma certo, per il centrodestra è uguale, perché un voto si fa il numero di voti complessivo, è uguale, giusto? No, lo vogliamo dire, perché non me lo ma fai lo si spiegare. Sa, lo si sa allora, questo. Faccio se vinciamo, non perché sia impossibile, ma comunque sempre una bella cosa. Se vinciamo, esatto, se vinciamo, invito tutti quelli che volevano venire a Fratelli d'Italia e che alla fine hanno avuto il braccino corto e hanno avuto paura di venire, li invito lo stesso a venire nel gruppo di Fratelli d'Italia. Vabbè, ma che è un fioretto questo? Non rimane niente, condono tutti, chi vuol venire venga. Ma devi tagliare il pizzetto allora. Sono loro che vengono da me, mica io che vado da loro. No, ma se doveste vincere, se vincete è perché Berlusconi fa un miracolo. No, se vinciamo vuol dire che stiamo andando tutti bene. Va bene, d'accordo, anche quello. 25 deputati, anche quello. E 15 senatori, abbiamo i gruppi. E siccome so che se abbiamo un gruppo ci saranno molti che stanno poi in imbarazzo nel Popolo della Libertà e che preferirebbero... Chi è in imbarazzo, per esempio? In un partito che fa della lealtà, dell'onestà, della pulizia. Allora diranno, possiamo venire da voi? Io, se vinciamo, dico sin da ora che li accolgo tutti. Vabbè, ma un altro fioretto invece che si può fare? Che fioretto? Cioè, un miracolo. Uno ha pensato, se vinco, che ne so, medaglio il pizzetto per sempre, non avrò mai più il pizzetto. O vengo da voi un'altra volta. No, ma deve venire in studio, altro che... Vabbè. Ti segnalo, voglio salutare la Russa. Io sono convinto, che per la Russa è meglio Vendola di Monti, cioè che lui apprezza più Vendola di Monti, sono quasi certo. È sicuro, ma è vero. Vendola è un mio avversario politico, ma Vendola esprime passione per la politica. Io questo l'ho sempre detto, non condivido quasi niente delle idee di Vendola, ma penso che Vendola e quelli come lui hanno all'origine la stessa passione per l'impegno politico che ho io, che hanno dimostrato quelli della generazione mia, ma anche delle generazioni successive. Chi pensa che la politica sia un motivo di orgoglio, di la politica con la P maiuscola, quella fatta per passione e non per interesse, c'è a destra e c'è a sinistra. Sicuramente Vendola, al di là, ripeto, cioè lei si allerebbe paradossalmente più con Vendola che con Monti, no? Non ho capito. Lei si allerebbe paradossalmente più con Vendola che con Monti? No. Mai con la sinistra e mai con Monti, d'accordo, quello è il vostro slogan. Con chi andrei a cena? Io andrei a cena molto più volentieri con Vendola, litigheremmo, discuteremmo. Con Monti va bene, che con Monti potrei parlare in tedesco e lui quella lingua la capisce bene e io lo parlo bene. E quindi a lei lo parla bene? Lei lo parla bene? Lei lo parla bene? Parlo bene, ho studiato 5 anni nella Svizzera tedesca, quindi lo parlo bene. Non lo sapevo questa cosa qua. Impari sempre. Non lo esercita mai però in pubblico il tedesco, come il professor Buttiglione, per esempio, ogni tanto si esercita. Ma no, quello è pure esibizionismo. Ma non è vero, perché adesso che mi ricordo, in un'occasione mi hanno ripreso le televisioni che parlavo con un turista, proprio l'uscita della casa di Berlusconi, e c'era uno che era lì che voleva capire qualcosa. Lei l'ha trattato male, come al solito. Ma io non me ne sono accorto, ma c'erano le televisioni che mi avevano registrato e poi l'hanno mandato, forse c'è ancora anche sul web probabilmente. In tedesco, vabbè, comunque ed era venuto poco dopo che avevo fatto una figura del cavolo in inglese, che poi me lo ricordo, sì, come no, me la cavo pure bene, ma no, quella che volta se la cava bene, una cosa tremenda ha fatto quella. Esatto, hai ragione, quella volta ho fatto una cosa sai quando ti impappini, no? Come no, me lo ricordo benissimo. Noi ci abbiamo campato per 3 giorni di seguito. We can talk English. We can do all evening. We can speak English if you prefer. Vabbè, questa se l'è preparata però. Come no? Ma come mai quella volta? In inglese, ma quella volta perché parliamo che non so l'inglese. No, ma io che quella volta feci una figura di merda. Ma come mai? Come mai feci una figura di merda? Perché non mi veniva la parola, ero stanco, mi sono impappinato. Ti capita in italiano? Ma come no? Certo. Ma è importante ammetterlo. Ma figura me ne sono vergognato per molto tempo, soprattutto perché non era, cioè anche io mi sono chiesto perché non mi fossi impappinato in quel modo, ma a volte capita nella vita. No, va bene, ma Rutelli ci mise un po' di tempo. Non è perfetto, intendiamo. Però lo parlo. Però lo parlo, magari l'accento non sarà meraviglioso, ma insomma posso sviluppare qualunque discorso non impegnativo in inglese. Senta, pure quella sui gay che ha detto recentemente è una cosa assurda pure. No, quello vedi, per fortuna c'è stato anche un giornale dell'ambiente vaticano che ha detto, ma che ha detto la Russa? Beh, appunto, dell'ambiente vaticano. Lo ribadisco qui, io sono contrario all'adozione da parte di genitori dello stesso sesso di un bambino, perché un bambino ha diritto di crescere con dei genitori naturali. Ma lei ha detto qualcos'altro anche? Di avere come modello un padre e una madre. E siccome è normale che nella maggior parte dei casi, non sempre, un figlio in qualche misura prenda esempio dai genitori, io credo che sia diritto di ogni bambino poter prendere esempio da una coppia etero e non da una coppia perché omosessuale. Possono diventare omosessuali? No, io dico l'esempio, perché devo costringere un bambino ad avere, chi lo decide che un bambino deve avere un papà e un popà? Chi l'ha deciso? No, ma non è obbligato, cioè non è detto che si diventi omosessuali con non è detto, io non l'ho mai detto. Ma come no? Lei questo l'ha fatto capire. Non ho mai detto che è obbligatorio, ho detto che è l'esempio. Non mi piace che un bambino che non è nato, perché non può essere nato figlio, cioè, di ma cresce uomo. Male, cresce un po' malato, cresce un po' nato. Disturbato, cresce disturbato in una famiglia non omosessuale. Non so se cresce disturbato, perché si può crescere disturbati anche figli di appunto, papà e di mamma, appunto, eh? Però appunto. In quel modo cresce svantaggiato dalla, dal non poter vivere una famiglia naturale. E ho capito. Lo capisci anche tu, dai. No, non lo capisco. Ci sono tanti non lo capisco, non lo capisco, lo sa perché la Russia, lo perché sa. Perché nessuno parla mai delle coppie normali che vogliono un figlio che hanno fanno una fatica. Ma chi ne parla? Se ne parla moltissimo. Io penso. No, non è vero, se come ne parla no? Molto di più. Delle adozioni di persone dello stesso sesso. È vero che ci dà 5 minuti dopo la pubblicità? 5 minuti dopo la pubblicità. 5 minuti dopo la pubblicità, ce li dà, sì. Ho grande rispetto per gli omosessuali. Ma questo l'ho sempre saputo, però quell'uscita secondo me resta infelice, anche questa sera quando le ha detto svantaggiati un po', insomma. La Zanzara. Oh, eccoci qui, 800 24 00 24. Ma abbiamo l'audio di Galliani che stoppa. Beh, è successo qualcosa di incredibile, Parenzo, nella conferenza stampa di presentazione di Balotelli. Cioè, è successo che a un certo punto Balotelli dice, classica domanda, Berlusconi ha detto che lei è una mela marcia, eccetera, eccetera. E lui ha detto, Berlusconi mi ha chiesto scusa, Galliani l'ha stoppato e ha detto no, nessuna scusa, Berlusconi non ha mai chiesto scusa e non ha mai detto della mela marcia, cioè, una cosa pazzesca. Ma insomma, la capacità di Berlusconi di cambiare idea da un giorno all'altro è pazzesca, o di raccontare bugie. La Russa. Pronto? È come l'uomo che non deve chiedere mai scusa, cos'era la pubblicità del genere? Non lo so, questo chiedetelo a Berlusconi. Noi siamo fratelli d'Italia. Ma lo so benissimo, lei è fratelli d'Italia. Fratello buono del popolo della libertà. Ah, sì, perché quelli sono cattivi? Quelli sono cattivi? No, siamo il fratello buono, che vuol dire? Ma Feltri ha detto, Vittorio Feltri... Anche perché la legge elettorale prevede che vincano le coalizioni. Ma lo so. Poi prendere il voto non solo utile... Ma vabbè. Anche sereno, bello. Se... Perché hai votato? Per i fratelli d'Italia. Ma perché uno deve votare per forza? No, la sinistra e no a Monti. Vabbè, scusi un attimo. Alleato con il resto del centro. Vabbè, Feltri ha detto che le liste del PDL gli fanno venire il vomito e che Berlusconi anche questa volta ha nominato candidato 10 mignotte. Lei è d'accordo con quello che ha detto Feltri? No, io non credo perché non so a chi si riferisse. Però le posso dire una cosa, che a quelli come Feltri, prima di lui ha usato il vomito, Montanelli aveva detto, parlava del naso, da Turati, sì. Non ricordate. Sì, c'è un'opportunità, che è quella di votare Fratelli d'Italia, vabbè, ho capito. Votavano PDL, adesso hanno paura di votare perché gli viene il vomito, perché... Votassero per noi. Votare Fratelli d'Italia vabbè. Senza Turati. Però non è che lei può fare il comizio qua. E tranquillamente dando il voto contro la sinistra. Ma non c'è, qui c'è la tribuna, le tribune elettorali sono una cosa, le trasmissioni sono un'altra, la Russia lei lo sa benissimo. Su, dai, non mi faccio. Allora, quanti gay avete a Fratelli d'Italia? Non possiamo parlare delle elezioni. Ma certo, ma ci sono gay Fratelli d'Italia? Non lo so, mi informerò, può darsi, non mi stupirebbe, non ci sarebbe niente di strano. Non ci sono coppie che adottano bambini, questo è sicuro. Vabbè, quello perché non è possibile farlo. No, muoviamoci, non è che il mondo è fatto solo di problemi dei gay. I problemi principali per le famiglie sono che non arrivano a fine mese. Vabbè, questo lo sappiamo. Sono la disoccupazione. Il problema principale sarà anche Balotelli, non dico di no, ma è che questo governo ha regalato 4 miliardi di prestiti. Non è regalato. Una banca, me lo fai dire la cosa importante, non è tribuna elettorale questa. E qual è? Noi oggi abbiamo proposto, noi Fratelli d'Italia, sì, una cosa che si può fare domani. E qual è? Che questo governo emetta un'emissione speciale di titoli di Stato, di bot. Molti dicono che è una follia. Restituzione gratuita a chi ha pagato la tassa sulla prima casa, che è dello stesso importo del prestito che hanno fatto una banca che non meritava nessun prestito. Lei lo sa che mettere in correlazione l'IMU... La banca con gli interessi su quel prestito. Quindi è una proposta che voglio vedere, una sfida a Monti, ma anche una sfida amichevole a Berlusconi, a tutti e due. Senta una cosa, interessante questa cosa qui, perché i La Russa sono da tanto tempo in politica, la famiglia La Russa, ma suo figlio, se le chiedesse di fare politica, magari gliel'ha già chiesto, lei come risponderebbe? Ho già dato, mi dice, perché da ragazzo si candidò al Consiglio di Zona 1 Centro di Milano, che è più prestigioso, e io pensavo si candidasse per aiutare me, alla fine invece ha preso quasi più voti nella sua zona di quanti ne prendessi io, però dopo poco poco tempo, disse: papà, è stata un'esperienza interessante, ma io voglio fare l'avvocato. Se fanno più soldi, se fanno più soldi a fare l'avvocato. Però non credo che sia per quello, ma perché non voleva vivere sotto l'ombra, ha ragione. Però vede, la Russia fanno politica da tanto tempo, ma sa qual è la caratteristica particolare? Qual è? Che sia io, che mio padre, che mio fratello, siamo tutti persone che lavorano oltre che fare politica. Ma nessuno, questo nessuno lo mette in dubbio. Non c'è niente di male per quelli che fanno politica senza lavorare. Noi però abbiamo questa caratteristica. Però scusi, la Russia, a lei farebbe piacere, a lei farebbe piacere... Cioè, a lei farebbe piacere che oppure lo sconsiglia da fare politica? No, sto parlando di Geronimo. Geronimo, che in questi giorni lui mi dia una mano, cioè che si interessi di politica, che poi debba candidarsi, no, preferisco di no, perché la politica oggi mi piace assai, non so oggi se io avessi 15-16 anni, mio figlio ne ha di più, quello più grande. Comunque questa è l'ultima generazione di La Russa in Parlamento, non ce ne sarà un'altra, diciamo. Questo non è detto, perché ho un figlio di 17 anni e un figlio di 10, ma quello più grande, Geronimo, sicuramente... Allo Stato non ha mai manifestato l'interesse. E a lei non farebbe piacere? E a lei non farebbe piacere? No, ma poi, io lo sapete, fanno quello che vogliono i padri. Ah, questo non c'è dubbio. Senta, un'altra mezza gaffa che lei ha fatto. Di aver dato un esempio, possono sperare di aver dato. E io spero di averglielo dato. Senta, un'altra mezza gaffa che lei ha fatto recentemente. Mezza gaffa, insomma, in realtà poi, secondo me, ha detto quello che pensa. Diciamo che prima lo diceva meno, quando era al governo. È questa roba su Mussolini. Ma che gaffa? Quello l'ho sempre detto. No. Il Presidente della Repubblica, un giorno importante, davanti al Presidente della Repubblica, allora ne parlò tutto il mondo, dissi che avevo, la mia coscienza mi imponeva di pensare anche ai ragazzi di Salò. Ma quello che c'entra, quello va benissimo, quello non c'è, ma molte luci nel fascismo, molte luci nel fascismo. La storia del fascismo. Ma lei ha detto che ci sono molte luci, le ha detto. Che sia fatta di ombre e di luci, ho detto è buio pesto le leggi razziali. Buio, pesto, le leggi. Ma va tutto insieme, anche tanti luci nel fascismo, solo qualche comunista nostalgico di Stalin, del muro di Berlino, dei gulag, si ostina a considerarlo un'eresia. Lo dice qualunque storico, sai chi è che lo diceva? Fino al 38 lo dicevano tutti i capi democratici di Europa, fino al 37 lo dicevano. Ma non è che sia una garanzia questa. Degli italiani. Questo lo dice. Cioè lei non direbbe mai che è il male assoluto, come ha fatto Fini una volta? Io non solo non lo direi mai, non solo ho contestato subito Fini, ma Fini ricordo che disse a me, quindi non lo può smentire, che lui non l'aveva mai detto, che lui per male assoluto intendeva le leggi razziali. Cioè non mi dirà mica che è un grande statista lei, non mi dirà che Mussolini è stato un grande statista. Lei che cosa ne pensa? Ma io penso di no. Dicono che è un grande statista Monti, figurati Mussolini. Cioè, ciao, arrivederci, me la devo andare. Vabbè. I Fratelli d'Italia. Ciao. Lorenzo? Sì. Dove sei? Ti volevo segnalare. Sono a casa. Volevo segnalarti e volevo segnalarlo anche alla Russa. Uno splendido tweet di Oscar Giannino. Sì. Bellissimo. Che quando la Zanzara ha scritto per commentare i fatti della giornata con noi Ignazio e la Russa, Giannino ha scritto il vecchio che ritorna. Volevo segnalarlo alla Russa. Ma sei sicuro che è lui? Certo. Cioè, perché ci sono vari profili di Giannino che in realtà non corrispondono a Oscar Giannino, quello vero, eh? Beh, comunque è vero. No, questo è Oscar Giannino per fare. Ho capito, ma non è che basta questo per attribuire quello a Giannino. Comunque, sentiamo. Basta! Ecco, appunto. Sentiamo la cosa più bella della serata: Balotelli e Galliani su Berlusconi Mela Marcia. Vi prego, ascoltate. Silvio Berlusconi ha detto di lei che è una mela marcia, lo disse. Si sente offeso per questo e in che modo ha intenzione di dimostrare che si era sbagliato il presidente? Ma dall'Inghilterra sinceramente questa cosa a me non è arrivata. Io l'ho sentita dopo, quando il mio procuratore aveva già parlato e il presidente si era già scusato, ma io non sapevo niente di niente, quindi non posso risponderti, mi dispiace. Chiedo scusa, domanda carina. Grazie al TG1 e rispondo, il Presidente non si è scusato, il Presidente ha precisato di non aver mai detto questa cosa, che è un po' diverso. Non sapevo. Questa è la risposta alla signora giornalista e cosa, tu non lo sai ma lo so io. e quindi siccome vedo le domande, sai, io sono purtroppo più vecchio di te, conosco il senso delle domande. Ma non c'è nessun senso, mi fa impazzire questa cosa, mi fa impazzire. Conosco il senso delle domande, il presidente non ha mai detto una cosa di questo tipo. Sentite, sentite. Faccia a me qualche domanda, signora. Vedrà che le rispondo bene, molto più molto preciso. È lecito, credo, fare domande, no? Cioè, o si devono fare solo domande compiacenti? Presumo che anche qualche domanda scomoda sia... No, non scomoda, inesatta. Inesatta? Sì. Mi dispiace, allora mi chiedo scusa per l'inesattezza, è stata riportata da tutti, poi voglio dire, è chiaro che siamo abituati alle smentite del Presidente, molto frequenti, su tante altre cose. Bene, complimenti a lei. Lasciamo perdere la considerazione finale di questa giornalista, credo del TG1 o di non so che cosa, sulle smentite di Berlusconi, che poi è vero, cioè, quello che ha detto, ma lasciamo perdere questo. Come si fa a negare che Berlusconi abbia parlato di mela marcia? Questa è una cosa che mi fa impazzire, perché spesso si dice, no Parenzo, bisogna contestualizzare, bisogna... No, ma lui lo fa sempre. No, d'accordo, qualche volta uno estrapola una frase, no? E dice, e dunque gli viene attribuito un pensiero che magari non è il pensiero completo. E quella, una contestazione di questo tipo ci può anche stare. Ci può stare, dico, ci può stare. Ma in questo caso non c'è nessuna contestazione. Cioè, come fa prima Berlusconi e poi Galliani, come fanno a dire, come fa, si chiama Federica Balestrieri, la brava giornalista del TG1, che giustamente ha detto, Galliani, scusi, non è che io faccio le domande compiacenti. E poi mi rivolgo al signor Balotelli, non a Papa Wojtyla, al signor Balotelli, Papa Wojtyla non c'è più, cioè a Papa Ratzinger. Cioè, mi rivolgo a Balotelli dicendo, siccome il presidente di cui lei adesso è dipendente l'ha apostrofata come mela marcia, che cosa ne pensa? Risposta di Balotelli: in Inghilterra queste cose non arrivano, come se fossimo nell'Ottocento, no? Come se fossimo fino a 30 anni e 40 anni fa, che le notizie non arrivano, arrivano dopo due secondi anche al Polo Nord le notizie. In Inghilterra le notizie non arrivano. Sarebbe da prendere a calci nel culo anche Balotelli per questa risposta. Insomma, brava giornalista, TG1 ha chiesto a Balotelli cosa ne pensava. Ma come si fa a negare che Berlusconi abbia pronunciato? A me questo mi fa impazzire. Sentiamo Berlusconi, perché bisogna sentire Berlusconi, perché in questo caso non c'è una cosa da contestualizzare. Cioè, Berlusconi ha detto è una mela marcia che provoca danni nello spogliatoio. Ma non è una, è una cosa da pazzi. Come si fa a dire che no, non l'ha pronunciato questa frase? Cioè, io divento Madosci. Vabbè, via. Mi spiace di doverlo dire, ma nel Milan... è molto importante in ogni squadra di calcio, nel Milan assolutamente, è molto importante l'aspetto umano, certo, della persona. E se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio, così si usa dire, può infettare anche tutti gli altri. Quindi, siccome io ho avuto modo per vicende della vita di poter dare un giudizio sull'uomo Balotelli, è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Fate voi, parla di mela marcia e successivamente parla di Balotelli, mi sembra chiaro il significato. Lorenzo da Roma. Da contestualizzare. Non c'è niente, diciamo, né da contestualizzare né da smentire, Lorenzo. C'è Parenzo in linea? Sì, Parenzo certo che è in linea, sì. Ecco, senta, una cortesia, è solo una testimonianza di una agente di polizia presenziale, una donna. Dico donna perché io considero donne più sensibili. No, non ho capito assolutamente nulla, scusi caro Lorenzo, abbia pazienza. Una testimonianza, sì, resa da una donna agente di polizia penitenziaria. Ma lei è una donna, scusi? No, scusi, ha parlato con me. Ho capito, ha parlato con lei, cioè lei ci sta riferendo una testimonianza, sì, di una poliziotta. Vabbè, esatto, d'accordo, ci riferisca questa cosa. Allora, poiché ha avuto modo di conoscere per questo tempo Balotelli, perché... Balotelli, scusate, Cucchi. Ma quando l'ha conosciuto? Volte, quando l'ha conosciuto? Perché è entrato diverse volte nel BIP, è entrato e uscito. Il ragazzo soffriva molto per essere stato abbandonato dalla famiglia. Era solo. E per guadagnare qualche lira faceva lo sparring partner in una palestra. Voi sapete chi è lo sparring partner, no? Sì, certo, lo sappiamo cos'è. Ecco, per cui i lividi, quelle cose lì. Non voglio entrare nel mondo, se no. Vabbè, poi scusi, però vogliamo... o lei sa qualcosa sulla morte di Stefano Cucchi? No, quale morte? Fermi, quale morte? Non stiamo parlando di morte, stiamo parlando della vita di Cucchi prima che venisse preso quella sera. Lei dice che faceva da sparring partner, secondo quanto le riferisce questa poliziotta, questa agente di polizia penitenziaria, faceva lo sparring partner in una palestra e dunque riceveva, ma questo lo si sapeva in realtà, e riceveva dei colpi, d'accordo, e allora? Certo. E allora? Eccomi. E allora quando in sede di esame autoptico dopo la morte, qualche livido sarà pure dovuto all'attività precedente. Ma che ne so io, ma questo lo stabiliscono le perizie, quelli che fanno le indagini sulla morte di Stefano Cucchi. No, lei, ma che ne sa lei? Ma tutti quanti, vi state improvvisando investigatori. Parenzo, di qualcosa per favore. Ma no, questa gente qui che chiama pensando di ricostruire delle verità sulla base neanche della lettura di nessuna carta processuale, sulla base di sensazioni, fanno un'operazione vergognosa e sporca, perché semplicemente vogliono tirare la verità su un caso di cronaca e usarla politicamente. Questa è la vera vergogna di questa storia. E il primo a aprire i tombini di questa vergogna, i tombini, le fogne di questa vergogna, è stato l'onorevole Giovanardi. È lui il primo che ha aperto. Sì, però non essere così scontato su questa cosa qui di Giovanardi, non essere così scontato, non essere così scontato. Hai sentito le due versioni, hai sentito le due cose, non essere così scontato, non non si può mettere sullo stesso piano la convinzione della sorella della vittima con le parole di un politico che strumentalmente usa il caso Cucchi. Ma sono due cose completamente diverse. No, però scusa un attimo. Il signor Giovanardi è intervenuto, poi non capisco nemmeno perché lo faccia, forse per visibilità, forse perché è fissato su alcuni argomenti, è intervenuto su un fatto che è diventato un fatto politico. Lui fa il politico e giudica. Ho capito, ma se uno si candida in nome del fratello, perché questo è successo a Ilaria Cucchi, una si candida, lo hai sentito anche tu, no? Allora, sarà possibile? No. Come no? Non si possono esprimere giudizi su questo? No, va bene, sei arrivato tu e tu blocchi, censuri tutto, non si possono esprimere giudizi. Io dico un'altra cosa, la signora Cucchi ha detto, io, forte dell'esperienza luttuosa che ho avuto in famiglia... Si candida per il fratello, qualcun altro dice, sfrutta! Non per il fratello, mi candido per raccontare e rivedere il sistema carcerario italiano. D'accordo, benissimo. C'è una testimonianza di vita. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo il piede. Enrico da Brindisi, buonasera Enrico. Buonasera. Dica. Io consiglio, buonasera anche a Parenzo. Giovanardi, uno dei responsabili morali della morte di Stefano Cucchi, perché con gli altri corresponsabili morali è stato colui che ha sempre sostenuto quella legge in base alla quale poi Cucchi si è ritrovato quel giorno in carcere, no? Cioè il carcere per i tossicodipendenti. Chi ha sostenuto sempre queste tesi adesso lo considero un corresponsabile morale ed è veramente vergognoso che quest'uomo continui a parlare su questo caso. Dovrebbe semplicemente chiedere scusa come già ha fatto, no? Perché mi sembra che a caldo Giovanni non è che tutti quelli che vengono arrestati non è che tutti quelli che vengono fermati per droga crepano, Enrico. Cruciani, lei lo sa benissimo che le carceri italiane sono strapiene di poveracci. Sì, sono d'accordo con lei, Enrico, però non è che uno è responsabile della morte di Cucchi perché ha fatto una legge in questo caso, insomma mi sembra un collegamento piuttosto... Magari si è trovato, quando degli aguzzini carcerieri sbagliati ed è morto. Ecco. Va bene, la ringrazio, Giuseppe da Varese. Giuseppe da Varese, buonasera. Buonasera Luciano, buonasera Parenzo, a tutti gli ascoltatori, buonasera. Vada. Senta, io vorrei solo dirle che io da stasera non ascolto più la sua trasmissione. Bene. Perché lei purtroppo è spesso molto maleducato ed arrogante con coloro che chiamano. Sì. Usa anche dei modi, dei termini che sono inurbani. Veramente con lei sono calmissimo in questo momento. Lui sta parlando. Io la ringrazio di questo, ma io non sto parlando di niente, sto soltanto dicendo che non sono d'accordo su come sta conducendo un annetto. Pazienza, c'è tanta gente che dice di non essere d'accordo. Sì, vede, come c'è tanta gente che dice di essere d'accordo con la trasmissione o comunque con l'impostazione. Io non sono d'accordo con la trasmissione. È un non problema. Io, l'ascolto da molto tempo. Sì. Come ho smesso di sentire il signor Forbice a Zappi? Lei smette di sentire la zanzara, si faccia un bel sonno. Si faccia un bel sonno, No, ma non ci sono tante alternative, però lei non si deve ritenere autorizzato a creare il suo siparietto, ad essere maleducato, arrogante, usare dei modi, dei termini che non sono Io sono autorizzato necessari. A fare quello che voglio secondo la legge. Ma non è vero, Mi spiace e mi spiace che la redazione di Radio 24 debba stare lì la sera, ascoltare lei che si comporta veramente in questo modo veramente non succede non questo. È civile. Ma lei che ne Ma lei che ne sa? Ma di che cosa sta parlando? Se dice cose che di cui non sa nulla, cioè di cui non sa nulla, ma c'è ancora in onda? Si scoprirebbe che lei si comporta spesso male nei confronti di quelli che chiamano, specialmente se non la pensano come non lei. Non c'è dubbio, no, anche quando la pensano come me, guardi. Anche quando la pensano come lei. Ogni tanto mi comporto male, allora? Ma più di ogni tanto, ma lei in una trasmissione radiofonica che è ascoltata da un sacco di persone, secondo me bisogna ascoltare le persone, farle parlare, mentre lei usa una tattica che secondo me è brutta. Lei vuole dettare la linea di questa trasmissione? Sapere? No, ma ci mi vuole consigliare come affrontare gli ascoltatori? Ma vuole darmi lezioni da questo punto di vista? No, ma è benvenuto, mai, è il benvenuto da questo punto di vista. Ci sono tanti che cercano di farlo, è il benvenuto, prego, si accomodi. Ma guardi che io ho chiamato altre volte e non sono mai stato richiamato, quindi... Richiamato è un termine che non conosco, Che cosa vuol dire? Io chiamo, telefono. Sì, ma noi l'abbiamo. Ma non c'è nessun filtro di nessun tipo, non si preoccupi. Io non dico che c'è il filtro, infatti, io ho detto: mi dispiace che lei spesso e volentieri è maleducato e arrogante nei confronti delle persone che chiamano. Perché lei a volte dà la sensazione, mi scusi, che siccome è in quella posizione, ha la verità. No, ma non è questione di verità. No, la questione è molto diversa. La questione è molto diversa, ma lei tanto anche se parla non la capisce, per cui è inutile che la inseguo su questo terreno. Il punto fondamentale è questo: io gestisco questo spazio come mi pare e piace, a seconda dei miei umori e delle mie idee. Se le va bene è così, altrimenti cambi canale, non c'è problema. Non c'è nessun problema. Ha capito o non ha capito? Io l'abbraccio fortissimo, io la voglio anche bene. Cioè, perché finché ascolta questa trasmissione, anche se non la dovesse ascoltare, la voglio comunque bene, perché lei può dire quello che vuole, io mi prendo le sue critiche, non c'è dubbio, me le prendo, sono qui ad ascoltarle, però le deve rispettare come io conduco, l'impostazione che io do, perché è questa e non si può cambiare perché io sono fatto così, ha capito? Lei sa benissimo che non si può parlare sopra ad un altro. Ma come questo lo dice lei, ma la vita è fatta così, la vita è fatta così, lei non mi può dare lezioni su come devo fare o come non devo fare, ha capito o no? Cioè, lei non può pensare di darmi lezioni su questo, perché tanto non cambia nulla, è così perché quelli che non cambiano mai idea, ma non è cambiare idea, io cambio idea su tante cose, il problema è un altro, lei non può darmi lezioni su come affrontare gli ascoltatori, ha capito? Perché io lo so benissimo come affrontarli, perché mi viene naturale, io tutto quello che faccio mi viene naturale, per fortuna non devo forzarmi, non sto... gli ascoltatori, e guardi che se lei perde un certo numero di ascoltatori, no, non li perdo, guardi, al massimo li aumento, glielo posso assicurare, guardi. Io lo posso assicurare. Quelli che hanno solo certezze me fanno paura. No, io quelli questa, che hanno dei dubbi, questa, come diceva Bertolt Brecht. Sì, Bertolt Brecht, certo. Il dubbio viene prima di tutto. Io questa certezza ce l'ho, su altre cose ho dubbi. Questa è una certezza invece, ma non è che è una certezza così campata in aria, c'è una certezza verificata, insomma, verificata empiricamente, caro. Ah, le cose cambiano nel tempo. Sì, possono cambiare, certo, non c'è dubbio. Ma che mi sta augurando il disastro? Mi sta augurando il disastro, Giuseppe? No, ci mancherebbe, ma signor Cruciani. E allora? Io le sto soltanto dicendo che lei in molti casi è maleducato. Non c'è dubbio, è vero, e usa dei termini che non sono è vero, da persona civile. È vero, sì, è vero. Perché la vita è fatta anche. Una cosa strana. La voglio più ascoltare. E chi se ne frega? La vita è fatta anche di questi aspetti qua. Io l'abbraccio fortissimo, le voglio bene lo stesso e vedrà che mi ascolterà, comunque mi ascolterà. La ringrazio, è con noi Ivano Marescotti, buonasera. Buonasera. Come sta Marescotti? Non c'è male. Lo conosci tu Ivano Marescotti, Parenzo? Ivano? Marescotti, vabbè, ma sei un ignorante. Parenzo è di un'ignoranza certe volte. Ivano? Veramente Marescotti è un attore famoso. Vabbè. Ah, ma abbiamo parlato, ma come no? Ma c'entra fatto un sacco di film divertentissimi, anche con Piero, conosco benissimo, certo. Ma che conosci? Non sai nulla. Lo conosco benissimo. Un cazzo. Danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. cadono le ceneri. Perché le dà così fastidio Marescotti, attore in tantissimi film, fa sempre la parte del cattivo spesso nei film, in genere, signor in genere. Marescotti, io me lo ricordo anche in un fantastico film di Checco Zalone, te lo ricordi Parenzo, che faceva la parte quello dei carabinieri, ma che carabinieri, ma non sai ma perché io sì devo stare... sì sì ha ragione Parenzo, ho fatto anche l'altro, quello col carabiniere. Ah, quello col carabiniere. Fatto... sì, ma che bella giornata, facevo il carabiniere. Nel primo di Checco Zalone facevo invece il leghista di merda. Il leghista di merda, il leghista aggiunge di merda. Ma ce l'abbiamo un pezzo di quel film col leghista o no? Ce l'abbiamo o no? Sentiamo un po', sentiamo. Checco, però. E cosa fa? Cosa fa? Fa il cantante. Ah, il cantante. Il cantante di che? Viene dal sud. Ma lui lo fa apposta. Lo fa apposta, per fare un dispetto a me. Non ho... Mauro è un bravo ragazzo, guarda, ha portato tutti i prodotti del suo paese, guarda. Con il rate, le mozzarelle. È carino, è stato. Questa roba l'ha portato lui? Sì. E qui c'è il leghista, il padre di una ragazza corteggiata da Checco Zalone, il terrone, diciamo così, che impazzisce all'idea di una figlia che possa fidanzarsi con uno che viene dal sud. Vabbè, ma poi ha fatto sì. Altre due grandissime. Famosa la scena che butta via, le orecchiette. Sì, la scena che butta via le orecchiette, spettacolare. Sono non di meno, sono amatissimo in Puglia, ogni volta che incontro un pugliese. Vabbè, certo, per forza, per forza. Scusi un attimo, Marescotti, ma mi spiega una cosa, perché lei non vuole andare a Cesenatico a fare uno spettacolo? Sì, ho letto che il sindaco, la giunta di Cesenatico, PDL, eccetera, hanno trovato un busto di Mussolini in una cantina, sì. Di quelle che facevano allora, e lo vogliono onorare mettendolo in un luogo pubblico, tipo sì. Biblioteca, non so dove, insomma, perché insomma, che ne so io, perché loro evidentemente... Perché è una cosa storica. Sì, storica, sì, appunto, è una cosa storica, esattamente come dice il nostro ex presidente del Consiglio, che Mussolini, se non fosse per le leggi razziali, insomma, ha fatto anche delle cose buone. Pensi se uno potesse dire, sì, Hitler, se non fosse per le cose razziali, ha fatto anche delle cose buone. Lì si capisce subito che uno dice una cazzata. Invece se si parla di Mussolini, tutto è messo... E questo si chiama revisionismo di qualche modo del fascismo, che è messo sullo stesso piano da molti, su coloro che hanno combattuto invece il fascismo. Ma lei che ci vuole fare a questa, che vuole fare a questa statua? Ah, niente, questa statua lo mettono, se lo tengono in casa loro, se lo tengono in casa il sindaco di cosa? Di Cesenatico. Sì, sì. E se la mettono lui e lo veneri lui. Se la mettono in un luogo pubblico, lei se ci passa davanti che fa? E ci sputo sopra. Ci sputa sopra? Beh, sì, è legittimo. Ma che legittimo, dai, su, ci sputa sopra. Ma quello è un reperto storico. Scusi, Marescotti, ma però... che reperto storico? Ma è una cazzata, è un reperto storico, è una roba che facevano in serie, non ha nessun valore di nessun genere, se non rappresentativo della figura del grande Mussolini, che qualcuno evidentemente lo paragona a un grande statista, come sappiamo. E dunque lei ha annullato questo spettacolo a Cesenatico il 1 marzo? Io non ho annullato, ho detto che se questi qua continuano, vogliono mettere, c'è il caso, perché siccome lo vogliono mettere in un luogo pubblico evidentemente, sì, sì. C'è il caso che io entro nel teatro e me lo ritrovo come una statua lì davanti all'ingresso, sì. Immagini, ci sputo sopra di sicuro, no? Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia, la cruda verità, le zanzare di casa mia. Ma vogliamo sentire gli avvocati Longo e Ghedini che abbandonano l'aula? Oggi, quando c'è stata la vicenda del... No, Parenzo, del legittimo impedimento, respinto, eccetera, eccetera, eccetera. Rimettere il mandato. Figura. Senti, che ne so, quello che volete, Longo. Io adesso abbandono l'aula. È un gesto che io non ho mai fatto in tanti anni, però è un gesto proporzionato di fronte alla mancanza di moderazione. Mi sono permesso anch'io di essere un po' smoderato. Chiedo scusa del trambusto che provocherò, perché dovrò togliere le mie carte e rivestirmi i panni civili, ma so che non sarà un grande disturbo. Quello non è un grosso problema. Quindi grazie e buon lavoro. Sento respirare, chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voli solo tu da me. Berlusconi ripete di essere amico di tutti i leader mondiali, sentite. Posso vantare un'amicizia con tutti i miei colleghi europei, posso vantare una amicizia molto forte con i presidenti americani che si sono succeduti, anche con il presidente Obama, un'amicizia particolarissima che continua col presidente Bush, un'amicizia con Dmitry Medvedev e con Vladimir Putin. È tutto l'elenco. Pannella scatenato a porta ieri sera, hai sentitolo, contro Marina Sereni, PD, lo schifo di Ambrosoli e Zingaretti, eccetera, eccetera, sentite. Abbiamo capito che a Pannella non stava simpatico Zingaretti quando ha tentato addirittura di mettersi d'accordo con Storace, quindi avevamo il sospetto che non avesse in simpatia il centrosinistra, che comunque è in questo momento l'unica alternativa vera al ritorno io della destra. Io ho reagito allo schifo bene, di Zingaretti e Ambrosoli, avevamo capito, che sono serviti per fare polizia e non pulizia. Avevamo capito che non ci stava siete simpatico. Il regime, siete voi, gli altri sono mai lasciamo marmellata. Parlare il regime per un momento. Però com'è che fa il regime? Si svegliano per me. Tutto sembra il regime partitocratico che avete affossato voi. Voi. Vedo che continui a non capire un cazzo. Sono pazze. Non è così, Marco. Ma è con noi il mitico Ivano Marescotti, attore il quale ha detto che se a Cesenatico si permettono di esibire in pubblico una statua di Mussolini, lui se ci passa davanti ci sputa sopra. Marescotti, ma lei per chi tifa in politica? Per Ingroia. Ingroia? Sì. E come mai vota Ingroia? Perché è l'unica posizione di sinistra rispetto a un governo che si presumerà che sarà PD e Monti. Io sono avversario politico di Monti, per cui da sinistra naturalmente. Certo, Berlusconi le fa paura? Questa rimonta di Berlusconi, lei che non mi pare proprio berlusconiano, no Marescotti? No. Se mi fa paura, mi terrorizza. Addirittura. Sì. Ma come lo considera? Una disgrazia nazionale proprio, o forse europea addirittura. Ma come lo descrive lei Berlusconi? Come un... Guarda, non mi faccia dire perché magari mi denuncia, se no, perché non è che non ho dei giudizi molto simpatici, per cui sai com'è. A noi piacciono i giudizi non simpatici, insomma. Ma guardi, c'è stato una volta che io ho interpretato anche un ruolo che era molto berlusconiano. Sì. Era una serie televisiva intitolata Raccontami con Massimo Ghini di 3-4 anni fa, sì. In una serie di un paio d'anni il mio personaggio che si chiamava Silvio, a un certo punto, siccome era un figuro, una canaglia, uno speculatore edilizio, carte false, processi eccetera, dopo 3 mesi che lavoravamo è arrivata una telefonata dall'alto, sì. Diceva non so da quanto alto, forse era Sacca allora. Bisognava cambiare il nome a questo personaggio perché somiglia troppo, non il nome evidentemente che è uguale, assomiglia troppo a un altro personaggio Silvio famoso, è stato cambiato, abbiamo dovuto ridoppiare in Livio, siccome il labiale è uguale. Ma non ci credo, ma che da chi è arrivata questa telefonata? Come dice? Da chi è arrivata quella telefonata? Da chi è arrivata? No, io non lo so, si diceva sul set è arrivata una telefonata che ci ha imposto di cambiare nome al tuo personaggio. Vabbè. Cioè lei sta dicendo che alla Rai siete stati costretti a cambiare il nome di un personaggio da Silvio in Livio nella serie Raccontami, perché quel personaggio era un losco figuro e qualcuno poteva pensare che si riferisse a Silvio Berlusconi, è così? Secondo lei? Ma che ne so, boh. Diciamo una coda di paglia, si vede. Ma che anno era quello là? Era 2007-2008, una roba così. Ah, poco tempo fa in realtà. Poco tempo fa. Quindi lei non ha mai fatto fino all'anno scorso. Ah. Parenzo, che dici? No, dico, quindi lei non ha mai fatto film con la casa con la distribuzione di Berlusconi? Io sì, ma come no? Su Medusa? Sì, certo. Beh, dunque i soldi da Berlusconi li ha presi, eh. io Maresco, cioè, su. Questa è una palma, ci mancherebbe altro. E come no? Che vuol dire? Indirettamente l'ha presi. Io faccio il mio lavoro. Ma indirettamente che io faccio il mio lavoro e faccio il mio lavoro, che faccio un attore, e naturalmente ci sono delle produzioni che io vado a lavorare su delle produzioni che mi pagano per il lavoro che faccio. No, ma su questo non c'è dubbio. Infatti, ma scusi, quindi ha goduto da morire l'idea di farsi pagare da Berlusconi, però bellissimo. Sì, appunto. Magari. Vabbè, ma quando ha parlato. Ma quella è una polemica strana. Cioè uno pubblica un libro con la Mondadori e non può pubblicarlo perché non. Bravo. Che vuol dire? Beh, insomma, alcune volte. Insomma, secondo lei Berlusconi è una sorta di delinquente. Che cos'è Berlusconi? Guardi, lo dice lei, se lo dico io mi denuncia. Ma che lo denuncia? Dica quello che pensa su Berlusconi. È uno che è stato condannato a 4 anni e mezzo per... Vabbè, per ma quello lo sappiamo tutti. Ma secondo lei come figura? Allora, che cos'è? Un delinquente? Ma forse non lo sanno tutti. Ma lo sanno. In Italia c'è libertà di stampa. Lo votano lo stesso. Immagini lei se ci fosse, non so, un Bersani condannato ai sottoprocesso in questo momento per l'appello. A sinistra se lo mangiano. Quelli di destra no, invece per loro è normale. Anzi, la magistratura toghe rosse, no? Ma nel cinema sono tutti anti-berlusconiani, Marescotti, attori. No, come no? Mazza, oh, no, non tutti. Molti anti-berlusconiani, molti. In genere le persone più intelligenti, sì. Perché i berlusconiani sono anche molto stupidi? Mi viene il dubbio che appunto dopo 20 anni di Berlusconi, se non hanno ancora capito qualcosa, insomma... Cioè, secondo lei gli elettori di Berlusconi hanno bisogno di vedere, proprio la tragedia in atto. Erano anche fascisti negli anni del fascismo, no? L'80-90%. Però c'è chi non lo era. Mio padre, per esempio, era in prigione durante il fascismo. E evidentemente non era una persona ricca, era un bracciante... Sono due cose diverse, Bisognava essere molto colti per capire se c'era libertà o no. No, mi dica, bisogna essere molto colti per vedere, insomma, che questa c'è una manica di delinquenti che ha guidato il nostro Stato, il nostro governo per degli anni. E Berlusconi era a capo di questa manica di delinquenti? È il capo, non è ancora lì. Scusi un attimo, però la dica tutta fino in fondo. Una volta Berlusconi lo disse degli elettori di centrosinistra. Secondo lei chi vota oggi Berlusconi è un coglione? Allora, per carità, no, dico che sono persone che sbagliano. Sbagliano, che pensano, si fanno turlupini, un finocchiare, come direbbe lui. Compagni che sbagliano, sono anche un po' ignoranti, o no? Ma ignoranti, se loro sanno, il problema è se loro capiscono e sanno qual è il problema di se questa, non l'hanno capito fino adesso. Di questa crisi, se non l'hanno capito fino adesso, vuol dire che gli va bene, ma c'è gente ancora adesso, come vede a Cesenatico, che praticamente considera Mussolini alla stregua dei suoi avversari, per cui è siccome tutto un brodo, no? Allora capirà. Ci sono anche dei nazisti in giro per l'Italia, lei lo sa, no? Ma insomma, pochi, dai, su questo oggettivamente. Nazisti in giro per l'Italia ce ne sono pochi, No. Casa Pound, per esempio, rivendicano il nazismo. Beh, il nazismo proprio no, però certo alcune cose del fascismo e del nazismo sicuramente. Marescotti, buona serata, l'abbraccio, a presto. Arrivederci. A presto. Well, now, little mosquito, there must be. Mauro da Savona, buonasera Mauro. Buonasera dottor Crociani. Vada. Mi fa piacere. Allora, io volevo intervenire su questo, io sono un savonese. Ha letto sui giornali questa faccenda qua della regione Liguria che ha implicata anche loro in questi scandali qua delle paghette in nero degli assessori, dei capogruppi, sì. Sentito? Sì. Io dico questo, l'altra sera stavo sentendo una trasmissione del giornale regionale, primo canale, e il governatore Burlando ha detto bisognerebbe che questi assessori, che questi consiglieri restituissero i soldi. Ma come? Ma le sembra un discorso? Restituire i soldi? Questi signori devono restituire i soldi, pagare gli interessi e andarsene via. Dico bene? Che se ne debbano andare via, se questi soldi non devono essere spesi in quel modo, sicuramente devono andare via, Mauro. Ma in realtà qui è successa un'altra cosa, che spesso sono stati ricandidati. Nello scandalo del Lazio, molti PD e PDL sono stati ricandidati. Sì, no, ma in Liguria poi vedremo, naturalmente. La ringrazio, Mauro. Ieri abbiamo parlato dello scandalo della Lombardia. C'è un candidato dell'UDC alle regionali che si chiama Gianmarco Quadrini, uscente, il quale pare si sia fatto la spesa alla COP con tanto di acqua, patatine, tovaglioli e appunto la carta igienica. Una festa sulla neve, magari sarà stata politica, 390 euro, panettoni, necrologi per 187 euro, un'anguilla marinata. Necrologi? Necrologi, 187 euro di necrologi. Un'anguilla marinata da 320 euro. 6 bottiglie di Franciacorta per 788 euro. La quota associativa per la CDO di Brescia, 60 euro. 4 camere doppie per 2 notti e consumazione frigo bar cantina, 1610 euro al Grand Hotel Terme Chianciano, come se fosse Parenzo. 1586 euro di prodotti alimentari del monastero Valle Chiara. Sì, ma io ve lo pago con i soldi miei. Sì, però, no, oppure della 7. Libri di narrativa, 14 euro. Pasti Alberti di Milano e altri banchetti collettivi da oltre 1000 euro per un totale di 112.000 euro. Io vorrei capire, soprattutto un'anguilla marinata da 320 euro. Signori miei, un'anguilla marinata da 320 euro. Alessandro da Roma, buonasera Alessandro. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica, Valenzo, dica. Complimenti per la trasmissione. Senta, volevo fare una piccola dichiarazione, 40 secondi. Non è che voglio difendere Berlusconi o il resto, però sulle dichiarazioni che ha fatto sul fascismo alla giornata della memoria. Innanzitutto, secondo me, sono state sbagliate per l'occasione. Vabbè, però, poi? Tornando a Mussolini, ma io vorrei sapere una cosa, so che Parenzo è molto sensibile a questo tema. Sì. Perché non si dice mai che durante la guerra, e questo è testimoniato anche da documenti storici, sì, storici ebrei, migliaia di ebrei furono salvati dall'esercito italiano con l'autorizzazione del fascismo in Croazia, in Jugoslavia, in Grecia. Ma che dice? Tanto che, guardi, allora con questo che cosa vorrebbe dire lei? No, sì, tanto che il quotidiano israeliano... Ma con questo cosa vorrebbe dire? Scusi Alessandro, no, mettiamo che sia vero. Mettiamo che sia vero. Il quotidiano israeliano ed è vero, e allora... No, perché non si dicono che queste azioni positive che ci sono state verso la comunità, verso... Ma questo ebrei, cosa vorrebbe 2003. Dire? Che non fece una politica anti-ebraica? Che non fece una politica di persecuzione? No, mi perdoni, mi dia 30 secondi. No, non ci sono 30 secondi perché ho una grandissima ospite per la quale abbiamo preparato tutto questo. Vorrei analizzare appunto la materia con l'antimateria, cioè parliamo di antimateria, visto che l'antimateria secondo me è più intelligente della materia, no? Ta-da! Flavia Vento è con noi! Buonasera a tutti! Eccoci qui, il punto, il punto, sai come il punto di Stefano Folli? Noi abbiamo il punto di Flavia Vento. Perfetto, allora, eccomi. Cara Flavia, come iniziamo questa sera? Cosa hai notato oggi? Con chi te la vuoi prendere? Però deve essere qualcosa di cattivo, iniziamo il venerdì. Guarda, me la voglio prendere con Parenzo perché ho visto la sua foto e non sapevo che è giovane. È giovane, ma abbastanza... Sì, 36. Sarà forse da uno di 80 anni. Ed è anche brutto, dillo, ed è anche brutto, dillo. No, non è brutto, è un bell'uomo. Beh, ma insomma. Non è brutto, ma io pensavo che era un 80enne. Ma scusami Flavia, però adesso... tu c'hai, quanti anni hai? Io ne ho 46, ma io sembro molto più giovane di Parenzo, su questo e non c'è io 36. Dubbio. No, Cruciani, sì. Quanti anni c'ha? 10 in più di Parenzo, 9 in realtà, 9 in più di Parenzo, 46 anni. Io 36. 36, capisci la differenza, sì. No, scusa, tu sembri più giovane di Parenzo. Brava, molto brava, questa mi piace molto questa cosa qui, mi piace moltissimo. Ma noi dedichiamo gli ultimi 10 minuti di trasmissione alla signora Vento per dire questa stronzata. Sì, ma soprattutto la signora Vento non si è preparata oggi, abbiamo capito. Mi dica una cosa, una cosa che ha letto di politica oggi. Ma che letto, dai? Ma guarda, che ho letto, niente, di Monti. Di Monti, che ha fatto Monti? Di Monti, che ha fatto? Di Monti, è andato in palestra. È andato in palestra. No. Vabbè, ma sei una cosa pazzesca. Io volevo fare il punto di Flavia Vento e qui non hai detto niente. Non ti sei preparata su nulla. Mi devi essere cattiva su qualcuno. Tesoro, lo so, ma io la sera ho tanto da fare. Ma che c'è da fare? Lo sai che ha detto Giovanardi? Giovanardi, lo sai che ha detto? Che Ilaria, ma non sai neanche chi è Giovanardi. Tu sai chi è Giovanardi? Posso dirti una cosa? Faccio a documentarmi sulla politica quando comunque la politica secondo me in Italia non esiste? Non esiste, ma tu chi voterai? Spiegami, chi voterai? Ecco, non esiste la politica. Guarda, la politica non esiste. Tu stavi parlando di una cosa molto importante secondo me. E qual è? Quello che ha detto Berlusconi in merito a Mussolini. La politica non esiste, dicevi, io mi sento male, mi viene da vomitare quando sento vomita, e ci credo, mi viene da vomitare pure a me, guarda, se pensa alla politica italiana. La politica non esiste, ha detto. La politica non esiste, no. Ti rendi conto? Mi viene da piangere quasi. La politica non esiste, ha detto questa pazza scatenata. Esiste secondo lei? E continua ancora a dire sciocchezze su sciocchezze, non ne posso più io. Senta Parenzo, lei ha l'età mia, insomma, si tiri su di morale. Ma no, ma perché non quelli... ci conosciamo? No, da quello è fidanzato, lasciamo perdere. Secondo no. me lei, se mi conosce, insomma, ritorna a essere un uomo. Sbrocca. Ritorna a essere un uomo, perché deve dire delle stupidaggini. La politica non esiste, ha detto, ma ti rendi conto? La politica, hai esordito dicendo che la politica non esiste, che Monti va in palestra, ma ti rendi conto? La politica non esiste, perché comunque i politici non Sentiamo. Esistono. Non esistono. Io voglio capire prima. Per chi vota Flavia Vento alle prossime elezioni? Dopo, voto per me stessa. Dopo la cotta per Grillo, per chi vota? Guardi, Grillo mi ha tradito perché comunque pensavo che era un democratico, non lo vedo più. E poi? Bersani non lo voto perché non mi piace, sì. Una politica comunista dove poi? Comunque è un magna magna uguale. Magna magna, cosa dice? Poi? Ma cosa dice? E quindi, cioè, Monti manco, Berlusca? Non lo so, forse voterò Berlusconi, non lo so. Ma, sì, no, sì. Ma come vota Berlusconi? Non si può fare, dai, su, ma non perché... non si può fare, lei che vota, scusa? Non lo so, Giannino. Guarda, io voto, lo sai perché? Per lo gnomo dell'Islanda e l'elfo che vive in Transilvania. Ma l'elfo. Ma questa si fa di robe pesantissime. Un abbraccio, però bisogna che ti prepari, sennò la rubrica la faccio fallire. Tesoro, ma la rubrica mi devi un attimo chiamare. Va bene, allora ci sentiamo lunedì. Va? Ciao. Grazie. Ciao, 18:30, ciao. Sì, sono andato, io ho due supermercati vicini ad Arcore, ogni tanto faccio una capatina, mi tengo informato sui prezzi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Un voto dato a Giannino è un voto in favore della sinistra. Basta! Radio 24. La passione si sente.